mettiamo un po' più dritto, che è più bello. Esatto. Cosa dici? Noi copriamo le ali. Ok. Siamo tutti o ci manca qualcuno? No, siamo tutti. Dobbiamo essere tutti. Il traduttore dov'è? E a fianco a Amore. Allora, c'è la sera. Massimo, tu sì, passi qui. Preferisci me? Va bene. Eh sì, allora. Certo. Facciamo così. Mettiamo qua Massimo. Ok. Bene, buon pomeriggio a tutti. Oggi presentiamo oggi è l'occasione, il Laboratorio Lapsus ha organizzato questa presentazione di un libro che in fondo è un manifesto politico-economico per l'interpretazione che ne abbiamo dato noi, anche per la volontà dell'autore, e vuole essere anche l'occasione per riflettere su quello che è stato il processo che ha portato all'attuale crisi, una riflessione quindi anche sulla crisi economico-finanziaria a 4 anni dal suo inizio e una riflessione su quelle che potrebbero essere i possibili scenari futuri, su quelle che potrebbero essere le possibili evoluzioni della crisi e quindi anche degli assetti economici e sociali del nostro mondo, a seconda che i governi e gli stati e i principali attori economici internazionali scelgano appunto una strada piuttosto che un'altra. L'occasione ci viene data appunto alla presentazione del libro Un mondo senza Wall Street del professor François Morin, che è qui con noi, e parte anzitutto appunto dalla riflessione su perché la crisi non è finita, perché i governi continuano ad annunciare che il peggio è passato ma appunto si sbagliano in modo così clamoroso, che è la domanda da cui il professore parte all'inizio del libro. L'idea di base che come Laboratorio Lapsus abbiamo avuto è che ha senso che degli studenti di storia, che degli studenti di discipline umanistiche si pongano appunto dei quesiti di natura economica e di natura politica. Perché la storia, per quella che è l'accezione con cui l'abbiamo sempre letta, con cui l'abbiamo sempre utilizzata noi del Laboratorio Lapsus, è appunto il suo uso pubblico. E il suo uso pubblico significa anzitutto che la storia ci deve aiutare a fare analisi, ci deve aiutare a comprendere quelli che sono i processi del passato che ci hanno portato alla situazione presente, in questo caso la situazione della gravissima crisi economico-finanziaria, della gravissima crisi sociale e anche politica che stiamo vivendo, e quindi anche quelle che possono essere le possibili soluzioni per il futuro. Quindi una lettura da un lato del passato, del presente, ma anche del futuro. E il nostro intento è appunto quello di riflettere quindi oggi su queste tematiche. Lo facciamo all'interno di un percorso che come Laboratorio Lapsus stiamo portando avanti da un certo periodo di tempo, da qualche mese a questa parte. Un percorso di studio e di anche comunicazione storica su quello che appunto è la crisi, le sue conseguenze, i suoi futuri, i possibili sbocchi ed evoluzioni. Questo percorso, oltre all'incontro di oggi, è anche fatto un'altra iniziativa che noi promuoveremo domani al Teatro della Cooperativa, ovvero la presentazione dello spettacolo teatrale Chicago Boys di Renato Sarti. L'idea è appunto anche quella di collegare questo percorso di riflessione anche critica su quella che è la crisi, di riflessione anche critica su quelli che sono gli assetti del neoliberismo che hanno portato appunto alla crisi, attraverso anche non soltanto i convegni o anche la presentazione di libri, ma anche attraverso forme comunicative diverse come può essere uno spettacolo. Per quanto riguarda il convegno di oggi, ne parliamo appunto con l'autore del libro, François Morin, che è professore emerito all'Università di Tolosa ed è anche stato membro del Consiglio Generale della Banca di Francia, oltre appunto a essere autore del libro. Ne parliamo anche con il professor Aldo Giannuli, che è docente di storia del mondo contemporaneo presso la nostra università, la Facoltà di Scienze Politiche, e di cui oggi abbiamo anche in anteprima il nuovo libro che uscirà a breve, ovvero Uscire dalla crisi è possibile. E infine abbiamo anche il professor Massimo Amato, che è docente di storia e di istituzioni e crisi e di istituzioni del sistema finanziario internazionale presso l'Università Bocconi. E io mi fermo anche qui, questo è lo spirito appunto con cui noi abbiamo voluto presentare e organizzare un evento del genere, secondo noi molto importante, soprattutto perché nell'università e in generale purtroppo nel dibattito pubblico troppo spesso si danno per scontate determinati luoghi comuni, si usano soltanto riflessioni basate appunto su luoghi comuni e senza la minima cognizione di quelli che sono gli assetti finanziari ed economici del mondo che hanno e quelli che sono stati i processi storici che hanno portato appunto alla crisi attuale. Io, come detto, mi fermo qui, lascio subito la parola al professor François Morin, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, e per concludere volevo anche ringraziare la casa editrice Marco Tropea per averci dato appunto la possibilità di invitare ed ospitare il professor Morin. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Il professore naturalmente parlerà con l'aiuto di un interprete che ci aiuterà a capire meglio il suo discorso. Grazie. Merci beaucoup de l'invitation qui m'est faite aujourd'hui par le laboratoire Lapsus et par l'université d'être présent parmi vous. Bonjour à tous, il me fait beaucoup de plaisir d'être présent ici à Milano, à l'Université Statale. Je voudrais commencer cette conférence en disant une chose assez simple. Je crois qu'on peut dire qu'on est dans une situation économique et politique extrêmement grave en ce moment à cause de cette crise financière et à cause de la crise des dettes souveraines. En effet, on observe aujourd'hui que les marchés financiers actuellement donc sont en passe de spéculer et de réussir sur la zone euro et son éclatement. La zone euro. Oui, je disais donc qu'aujourd'hui les marchés financiers sont en passe de réussir leur spéculation sur la zone euro et l'éclatement de cette zone. Susceptibles de réussir leur spéculation contre la zone euro, c'est-à-dire l'éclatement de cette zone. Dunque, appunto, l'obiettivo della speculazione finanziaria è arrivare alla distruzione della zona euro, la sua esplosione. En effet, depuis plusieurs mois, on observe sur les dettes souveraines, des mouvements sur les taux d'intérêt qui sont extrêmement inquiétants. Et d'un point de vue financier, nous assistons à l'innalzamento des tassi d'intérêt en manière plutôt évidente. Ces mouvements sur les taux d'intérêt sont le signal de deux problèmes pour la zone euro. Premièrement, un problème de gouvernance de cette zone euro, et deuxièmement, un problème de soutenabilité des dettes. Questo problema, cioè questo crea assolutamente due problemi sostanzialmente nella zona euro, appunto l'innalzamento di questa speculazione e l'insostenibilità dei debiti nella zona euro. Alors, évidemment, pour comprendre pourquoi cette spéculation aujourd'hui produit ce type d'effet, il faut comprendre d'où vient le fait que les dettes sont devenues insoutenables. Et donc je me propose ici de remonter un peu l'historique des causes concernant donc la situation de l'endettement des pays européens. Donc le thème est capire da dove viene l'insostenibilità dei debiti anche a livello europeo e da questo io parto nella mia analisi. Le surendettement des pays européens a une cause principale qui est en fait l'effet de la crise financière qui s'est développée durant les années 2007-2008. Donc, le surendettamento della zona euro ha una chiara origine di tipo finanziario che è da collocare negli anni 2007-2008. Entre 2007 et 2011, pendant ces quatre années, la dette publique mondiale a augmenté de 45%. Tra il 2007 e il 2011, dunque dentro questi quattro anni, il debito mondiale è aumentato del 45%. Donc cette augmentation ne concerne pas seulement les pays européens, mais concerne aussi au premier chef les États-Unis, mais également la Grande-Bretagne et le Japon. Questo indebitamento naturalmente non riguarda solo la zona euro, l'Unione Europea, ma anche gli Stati Uniti, il Giappone, la Grande-Bretagna. Mais évidemment, en Europe, nous avons un problème de gouvernance politique qui explique pourquoi la spéculation, et notamment la spéculation des hedge funds, s'attaque à la zone euro. Ma évidemment, in Europa abbiamo un problema di governance che crea problemi e crea questa speculazione che sta attaccando in particolare proprio l'eurozona. Avant la crise financière, la grande majorité des pays européens étaient dans ce qu'on appelle les critères de Maastricht. Après la crise financière de 2007-2008, on observe au contraire, de la part de ces pays, une sortie de ces critères de Maastricht. Donc, le problème fondamental est in questo momento est rappresentato dai legami del dovuti agli accordi di Maastricht. In questo momento, appunto, la soluzione sembra essere un elemento dei limiti posti da Maastricht. Alors, évidemment, ce qui est en jeu aujourd'hui, si on veut sortir de cette crise des dettes souveraines, c'est comprendre aussi pourquoi nous avons eu la crise financière, puisque cette crise financière a entraîné la crise des dettes souveraines. Donc, en ce moment, la première chose est comprendre perché la crise, perché si è generata questa crisi e quindi risalire alla crisi dei debiti subprime. Alors, on a fait 1000 fois le diagnostic de la crise financière, mais apparemment, ce diagnostic n'est pas encore vraiment satisfaisant, puisqu'il y a eu 6 réunions du G20, 24 sommets européens depuis 2007, et que pour autant, nous sommes toujours dans une crise extrêmement grave. È stata fatta 1000 volte la diagnosi della crisi, ma evidentemente non è stata efficace, perché ci sono stati anche 6 riunioni del G20, 24 summit europei, e siamo ancora qui a discutere del perché c'è la crisi. La raison sans doute pour laquelle le diagnostic n'a pas été fait, c'est que probablement le système de financement de l'économie mondiale est arrivé au terme des logiques qu'il a pu développer jusqu'à présent. La diagnosi più efficace sembra essere quella secondo cui il sistema di rifinanziamento dell'economia attuale si è arrivato al suo limite. C'est donc des raisons assez fondamentales qui sans doute expliquent la crise et pour moi, avec d'autres économistes, Nous pensons que l'origine de cette crise financière tient au développement considérable d'une certaine catégorie de produits financiers qu'on appelle les produits dérivés. Senz'altro l'origine è da attribuire allo sviluppo, alla diffusione di un certo tipo di prodotti finanziari, quelli che noi oggi chiamiamo i prodotti derivati. Ces produits financiers ont été créés dans les années 70 et 80 en raison de l'abandon de souveraineté des États sur deux prix fondamentaux de la finance globale, qui sont les taux d'intérêt et les taux de change. L'origine appunto da far risalire agli anni 70-80, quando gli Stati abbandonarono la sovranità su due elementi fondamentali, il tasso dei cambi e il tasso dell'interesse. Oui. En effet, si on remonte un peu historiquement ce qui s'est passé durant les dernières décennies, on s'aperçoit qu'entre 1944, date des accords de Bretton Woods, et août 1971, moment où l'or est coupé dans sa relation avec le dollar, on s'aperçoit que pendant cette période, il n'y a pas eu une seule crise financière dans le monde. Si si convince a maggior ragione di questa tesi se si pensa che dal 1944 al 1971, ovvero dagli accordi di Bretton Woods, al momento in cui nel 1971 il valore dell'oro viene slegato, cioè viene sciolto il legame fisso tra il valore dell'oro e il valore del dollaro, in questi 30 anni non si è mai prodotto una crisi finanziaria. Et quand aux États-Unis on prend la décision de couper le lien entre le dollar et l'or, puis ensuite entre le dollar et les autres grandes monnaies, on crée de toutes pièces un marché d'échange qui va devenir très vite spéculatif. Nel momento in cui appunto nel 1971 gli Stati Uniti recidono questo legame tra il valore dell'oro e il valore del dollaro, danno l'avvio a quello che poi sarà la grande speculazione internazionale. E donc on a assisté à une première libéralisation et cette première libéralisation a créé un choc pour l'économie réelle, essentiellement pour les entreprises, puisque les entreprises ne pouvaient plus connaître à l'avance leur taux de change. Et cette première libéralisation a produit un choc, un énorme choc initial pour l'économie réelle, surtout pour les entreprises qui ne savaient appunto non potevano sapere i tassi di interesse dei prestiti in anticipo. Et donc on a créé des produits financiers qu'on appelle en général des contrats à terme. Ce sont les grandes banques qui ont créé ces produits financiers pour couvrir le risque lié aux variations du change. Pertanto le grandi banche hanno creato dei prodotti finanziari, in qualche modo dei contratti a termine per cercare di limitare il rischio di questa variazione dei valori. Et ensuite il y a une seconde libéralisation qui est intervenue avec la formation de vastes marchés obligataires où les taux d'intérêt sont devenus à leur tour des prix libres. La seconda liberalizzazione è avvenuta con l'apertura, con la crescita del mercato obbligazionario, dove appunto tutti questi valori sono diventati liberi. Et là aussi, donc, il a fallu créer des produits financiers pour combattre le risque lié aux variations de taux d'intérêt. Ce sont les grandes banques qui ont créé aussi ce qu'on appelle des swaps de taux d'intérêt pour couvrir le risque lié aux variations de taux d'intérêt. Et in questo momento, appunto, le grandi banche per una seconda volta hanno creato dei nuovi prodotti finanziari per cercare di limitare questi rischi. À partir de ce moment-là, dans les années 80 et 1990, les grandes banques sont à l'origine de toute une série de produits dérivés destinés à couvrir des risques liés aux variations à la fois au taux de change et au taux d'intérêt. Et donc, dans les années 80-90, si sviluppa tutto questo mercato in cui le grandi banche creano tutta una serie di prodotti finanziari unicamente, unicamente delegati a ridurre il rischio della variazione dei tassi di cambio e dei tassi di interesse. E on va prendre l'habitude de couvrir toute une série de différentes de risques. Le risque juridique, le risque informatique, le risque météo, avec des produits financiers qui eux-mêmes s'échangent sur les marchés. Et appunto si crea in qualche modo tutti dei prodotti che vanno a coprire qualunque tipo di rischi, il rischio giuridico, il rischio informatico, persino il rischio meteorologico. Avec des produits financiers qui s'échangent sur les marchés. Con prodotti finanziari che appunto si scambiano sui mercati. Si bien que à la fin des années 90, on invente également une autre assurance contre un risque particulier qui est le risque du crédit. À la fin des années 90, si arrive à une autre nécessité de crédit, cioè quello di tutelarsi rispetto al appunto il rischio del credito. Évidemment, les banques qui font du crédit imaginent à ce moment-là une façon particulière de se débarrasser du risque lié à leur crédit et ils inventent à la fin des années 90 le processus de titrisation. Les banques qui fino allora si erano occupate della gestione del credito vogliono eliminare il rischio di questa attività e arrivano tutta una serie di processi che noi chiamiamo come cartolarizzazione. Le processus de titrisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'idée de transformer des créances en titres financiers qui peuvent s'échanger sur les marchés. Et de cette façon-là, les banques se débarrassent du risque lié aux créances et souvent aussi de ces créances elles-mêmes. Dunque, cosa vuol dire la cartolarizzazione? Vuol dire mettere sul mercato delle valutazioni di titoli e vendere come se fossero titoli queste stesse valutazioni. C'est comme ça que la crise va arriver avec la titrisation des créances subprime. Et dunque si arriva in questo modo esattamente alla crisi con la cartolarizzazione dei subprime. Les subprimes sont des crédits faits à des ménages américains fragiles durant les années 2000 et ces créances vont être titrisées et donc vendues sur les marchés financiers afin, soi-disant, de diminuer le risque des banques. I mutui subprime erano stati creati negli Stati Uniti all'inizio degli anni 2000 e quindi vengono in qualche modo cartolarizzati sul mercato per cercare di ridurre il rischio insito in questi prodotti così deboli. Les titres financiers qui sont représentatifs des créances subprime ont été intégrés dans d'autres produits financiers qu'on appelle des produits structurés, et ces produits structurés eux-mêmes ont pu entrer dans la fabrication également d'autres produits structurés selon une chaîne qui peut être très grande. Appunto, questi titoli vengono poi a loro volta venduti all'interno di titoli strutturati e in qualche modo si crea una catena di valore in cui ogni titolo rimane a un titolo precedente. Le marché des subprimes rappresenta des créances d'une valeur de 400 milliards de dollars. Quand la crise immobilière éclate aux États-Unis à la fin de l'année 2006, les actifs, c'est-à-dire les produits structurés liés à ces créances subprimes, représentent, 15 000 milliards de dollars. C'est clair? Dunque, nel momento in cui vengono creati, il mercato di questi titoli vale 400 milioni di dollari. Quando si arriva alla crisi e quindi all'esplosione, alla insostenibilità, il valore totale di questi titoli si attesta intorno ai 5 mila milioni di dollari. Tout ça en raison du processus de structuration de produits financiers. On a fait ce qu'on appelle des CDO, de CDO, de CDO. Le terme de CDO représente évidemment des obligations structurées. Questo evidentemente deriva tutta da una serie di ristrutturazioni reciproche di cui si parlava prima e recate sotto il nome di CDO. Alors, si on, donc, on essaie de comprendre l'origine de la crise financière, on voit que l'origine tient au fait que les plus grands États ont consenti des abandons de souveraineté sur ces deux variables fondamentales que sont les taux de change et les taux d'intérêt. Dunque, se si cerca veramente di capire quale sia l'origine della crisi, è l'abbandono da parte degli stati della sovranità su due valori, i tassi di cambio e i tassi di interesse. Le grandi banche se sono substituite aux États pour créer ces produits dérivés, les fabriquer et pour ensuite spéculer sur ces produits dérivés. Dunque, le grandi banche si sono sostituite agli stati nella gestione dei tassi di interesse e dei tassi di cambio e hanno creato questi titoli per appunto speculare sulla gestione dei tassi di cambio e tassi di interesse. L'activité des plus grandes banques du monde durant les années 2000 ont été une activité financière à côté de l'activité de crédit qui demeure bien sûr, mais surtout cette activité financière qui touche les produits dérivés. Dunque, negli anni 2000 le banche affiancano alle normali attività di credito un'attività finanziaria. Questa componente finanziaria si specializza nella creazione di questo tipo di titoli. Parce qu'un produit dérivé, c'est bien sûr un produit qui est un produit de couverture, de risque, mais c'est aussi en même temps un produit très spéculatif. Perché i prodotti derivati appunto sono un modo di tutelarsi dal rischio, ma sono anche una via estremamente speculativa. Depuis le milieu des années 90, on peut dire que la finance s'est globalisée à l'échelle planétaire et que toutes les salles de marché sont interconnectées entre elles, les salles de marché des plus grandes banques, naturellement. Pertanto possiamo dire che a partire dagli anni 90 la finanza si interconnette a livello globale e tutti i settori delle banche dedicati appunto alle attività finanziarie e speculative si connettono. À la veille de la crise financière, les grandes banques sont de véritables monstres financiers avec des pieds d'argile parce que ces grandes banques sont aussi à l'origine de l'instabilité financière, c'est-à-dire de l'activité spéculative. Pertanto possiamo dire che nel momento in cui si arriva alla vigilia della crisi, queste grandi banche sono dei mostri, ma dai piedi d'argilla, estremamente deboli. Un exemple, si on prend la plus grande banque européenne en 2010, 31 décembre 2010, BNP Paribas, qui est une banque française, son total de bilan était de 1990 milliards d'euros. Et de l'autre côté, si on prend l'endettement public de l'État français, nous arrivons simplement à une somme de 1600 milliards d'euros. Pour montrer la puissance de ces grandes banques, je prends d'abord un premier chiffre qui est le total de bilan de BNP Paribas, qui est la première banque européenne aujourd'hui. Donc, pour montrer la potenza de quello che dico, prendo ad esempio il totale del bilancio della banca BNP Paribas, che in questo momento è la più grande banca d'Europa. Dont le total de bilan est donc de 1990 milliards d'euros. E in cui in questo momento capitale gestito è totale del bilancio è 1990 milioni di euro. Miliardi di euro. Et alors que de l'autre côté, pour l'État français, qui représente finalement la faiblesse de cet État par rapport à la force de cette grande banque, l'endettement français était à cette époque-là de 1600 milliards d'euros. Dall'altro lato possiamo pensare che nello stesso periodo lo Stato francese, che quindi in questo momento rappresenta l'elemento debole dei due, ha un valore pari a 1600 miliardi di euro. peut prendre encore un autre chiffre pour mesurer le poids de ces plus grandes banques dans cette finance globale. Le total de bilan des 11 premières banques du monde en 2010 était égal à l'endettement public mondial. Pertanto il bilancio, possiamo usare un altro dato, che il bilancio delle 11 principali, delle 11 prime banche mondiali è pari al totale dell'indebitamento mondiale. Face a cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution peut-on envisager à partir du moment où la crise aujourd'hui ne fait pas. Di fronte a questa situazione, che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare a una crisi che sembra sempre sul punto di crescere? La zona fragile dans cette finance globale, c'est la zone euro. La zona fragile in questa finanza globale in questo momento è la zona euro. Pour l'instant, la Banque Centrale Européenne tente de calmer la spéculation sur les marchés. Pertanto la Banca Centrale Europea tenta di calmare la speculazione sui mercati. Elle est intervenue deux fois, une première en décembre de l'année dernière et une seconde fois en février, pour injecter 1000 milliards d'euros dans le marché monétaire. È intervenuta già due volte, nel dicembre e nel febbraio scorso, per mettere 1000 miliardi di euro nel mercato finanziario. Alors cela a calmé un petit peu la spéculation sur les dettes souveraines. Questo ha calmato in parte la speculazione sui debiti sovrani. Mais depuis quelques jours, de nouveau, la spéculation s'est renforcée, notamment vis-à-vis de l'Espagne. Ma da qualche giorno la speculazione vediamo che si sta rinforzando soprattutto sulla Spagna. Les taux d'intérêt à long terme à 10 ans sur la dette espagnole sont de l'ordre, par exemple hier, de, j'ai des chiffres ici, 5,4%. Dunque, pertanto, i tassi di interesse ai 10 anni, stiamo parlando della Spagna, ieri si attestavano al 5,4%. Et les taux italiens ont tendance à suivre, mais à un niveau un petit peu en dessous, les taux espagnols. E lo Stato italiano, un po' dietro, però sembra destinato a seguire lo Stato spagnolo in questo senso. Alors, pourquoi parle-t-on de ces taux d'intérêt sur les dettes à long terme? Eh bien parce que beaucoup d'analystes pensent que ce sont les nouveaux bulletins de vote pour démettre les gouvernements. Et pourquoi donc toute cette attention vers ces taux d'intérêt à long terme? Et pourquoi, selon divers analystes, ces valeurs sont diventando les nouvelles schede électorales pour buttare le gouvernement? C'est à cause de ces taux que le gouvernement grec, d'abord le gouvernement, pardon, portugais, mais ensuite grec, également ensuite italien et espagnol, que ces gouvernements ont dû démissionner. Et non è un caso che appunto i governi di Grecia, Portogallo, Spagna e Italia sono caduti in questo periodo. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que les dettes publiques européennes, comme la dette américaines ou japonaises, sont des dettes qui sont insoutenables financièrement par les États en question. Il vero problema è che i debiti degli stati in questo momento sono insostenibili per gli stessi stati. Et donc ce que l'on peut craindre dans un proche avenir, ça peut être dans quelques semaines, quelques mois ou un peu plus, c'est une nouvelle crise qui serait liée à un défaut de paiement, soit d'une dette d'un État, soit d'une dette d'une grande banque. Pertanto, quello che potrebbe avvenire nelle prossime settimane è l'arrivo di una nuova crisi dovuta o al crollo per indebitamento di uno Stato europeo o di una grande banca. E a ce moment-là, nous risquons d'avoir une catastrophe financière. parce que les États européens ne sont plus en capacité aujourd'hui de n'ont plus les moyens financiers comme en 2007 ou 2008 pour réagir à une nouvelle secousse importante financière. In quel momento avremmo una vera e propria crisi finanziaria perché gli stati non sarebbero più in grado di porre rimedio innovativa come è stato fatto nella crisi del 2007-2008. Et donc par rapport à cette situation qui est très grave, il n'y a que deux scénarios malheureusement possibles. E di fronte a questa situazione estremamente grave non abbiamo che due scenari purtroppo possibili. Ou bien on a un scénario que souvent on qualifie de noir, un scénario catastrophique, où la crise survient avec évidemment son cortège de récession, de chômage, mais aussi avec des risques de repli identitaire, de nationalisme exacerbé, avec des risques également d'affrontements en tout genre, si, évidemment, il n'y a pas d'intervention politique avant le déclenchement de cette crise. Il primo scenario, evidentemente, è lo scenario nero, lo scenario catastrofico. E in questo caso assisteremo, in seguito alla una recessione economica, a una perdita di lavoro, avremo anche delle conseguenze sociali e politiche, per esempio dovute a una crescita di un nazionalismo esacerbato. E questo se gli stati non prenderanno in mano la questione. Alors, l'autre scénario pour lequel il faut, en tant que citoyen, bien sûr, essayer de militer, c'est un scénario de sortie par le haut qui essaye de poser aujourd'hui de vraies réponses par rapport au diagnostic que l'on peut faire de la crise. Il secondo scenario, che è quello che in quanto cittadini dovremmo porci come principale, è cercare veramente di capire quali sono le ragioni di questa crisi per cercare di uscire. Ce qui est en jeu, c'est le système de financement de notre économie mondiale. Ciò che è in gioco è il sistema di rifinanziamento dell'economia mondiale. Pas simplement au niveau le plus global, mais je dirais à toutes les échelles de ce système de financement. Non solamente a livello globale, ma a tutti i livelli del finanziamento a livello mondiale. Bien sûr, au niveau mondial, il y a des mesures à prendre, mais cela suppose peut-être la mise en place d'une sorte de gouvernance monétaire à l'échelle mondiale. Il faudrait revenir à l'idée de Keynes, probablement, qui avait l'idée de créer le bancor, c'est-à-dire une monnaie commune, non pas unique, mais une monnaie commune à l'échelle internationale. Sicuramente vi sarebbe da affrontare scenario globale, a livello globale, e a quel punto sembra interessante la proposta di Keynes, che appunto proponeva la creazione di una moneta comune, non di una moneta unica, di una moneta comune a tutto il mondo. Oui. Che Keynes appelait bancor. Che Keynes chiamava bancor. L'intérêt d'une monnaie commune, c'est que les rapports entre cette monnaie commune et les autres monnaies du monde sont des rapports fixes, mais ajustables politiquement. E cioè una struttura per cui il valore, il rapporto di cambio tra questa moneta comune e le altre monete è fisso oppure variabile in base alle decisioni degli stati. Et donc il faudrait probablement aller dans cette voie qui ne sera pas une voie facile, qui prendra sans doute beaucoup d'années, mais il est important de jeter déjà, dès à présent, cette perspective. L'idée d'une monnaie commune comme un bien commun d'humanité, ce n'est pas une idée évidente. Et donc, ça ne peut se faire que par étapes. Et si on va dans cette direction, il est clair que les États reprennent la main sur la formation des taux de change et des taux d'intérêt. Indubbiamente non sarebbe una via facile, non è evidente come la creazione di questa moneta comune si rivelerebbe però un vero e proprio bene comune dell'umanità, però è auspicabile assolutamente un ritorno di sovranità da parte degli stati. Et en reprenant donc cette souveraineté, on élimine 90% de la spéculation internationale aujourd'hui. Et attraverso il ritorno a questa sovranità si eliminerebbe immédiatement il 90% de la spéculation à livello mondiale. Et cette spéculation, elle est en quelque sorte orchestrée, organisée par les grandes classes financières que sont Wall Street et la City. Et évidemment, cette spéculation, en ce moment, est orchestrée par les grandes piazze financières qui sont spécifiquement Wall Street et la City de Londres. C'est la raison pour laquelle on peut dire qu'un monde sans Wall Street, c'est un monde qui ne connaîtrait plus cette spéculation financière qui déstabilise aujourd'hui l'ensemble de la planète économique. In questo senso, parlare di un mondo senza Wall Street significa parlare di un mondo senza la speculazione che terrorizza oggi l'economia mondiale. Alors, évidemment, pour terminer, on peut aussi donner quelques indications sur d'autres échelons du système de financement de l'économie mondiale, parce qu'il y a des enjeux très importants comme la crise énergétique actuelle, la crise de l'environnement, et donc il va falloir aussi pouvoir financer la transition écologique. Siamo in una fase in cui ci sono in ballo anche altri elementi fondamentali, per esempio penso alla crisi energetica, alla crisi ambientale, temi che necessitano un'enorme capacità di immissione di fondi per finanziare questo rinnovamento. Et c'est, bien évidemment, les marchés financiers n'ont pas la capacité d'anticiper à long terme les financements concernant cette transition, disons, écologique. Les marchés financiers n'ont pas la capacité. Et les marchés financiers, en ce moment, évidemment, n'ont pas la capacité pour soutenir cette transformation, ce changement d'économie. Ils n'ont pas la capacité de penser à long terme. Hein. Et n'ont pas la capacité de penser à long terme. Et donc ça suppose là aussi que, d'une certaine façon, les États, les responsables politiques reprennent en main, au niveau des nations ou des blocs de nations comme l'Europe, par exemple, le financement de ces grands investissements nécessaires. Et donc, il semble évident que dovranno essere gli Stati, à livello nazionale ou à livello di macro-regioni, di blocchi, comme per esempio l'Europa, à riprendere in mano la question et à financer questo cambiamento. Et puis il y a aussi bien sûr d'autres réformes qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre. On n'a pas le temps ici de les évoquer toutes. J'indiquerai simplement que peut-être, en effet, il faut, dans un temps le plus rapide possible, séparer les activités spéculatives des plus grandes banques des activités de crédit. Et il faut également, peut-être très vite, mettre en œuvre les opérations de taxation des flux financiers, des opérations financières. Évidemment, il y a toute une série de réformes que, adesso, non vediamo nel dettaglio per problemi di tempo, comme per esempio la séparation de quelle que sont delle banche et le attività speculative dalle attività di credito, oppure tutto il discorso sulle tassazioni dei flussi scambi a livello finanziario. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Il y a aussi tout un autre volet qu'il faudrait évoquer, que je n'ai pas évoqué. C'est le rôle de ce que l'on a appelé dans la littérature le rôle de la valeur actionnariale, c'est-à-dire le rôle que joue la création pour les actionnaires dans les grandes entreprises. Adesso concludo perché non essere arrivato al termine, ma ci sono alcuni altri temi fondamentali rispetto a questo soggetto, come per esempio la creazione di valore per gli azionisti all'interno delle imprese. Cette notion de valeur actionnariale a été également propulsée par le monde financier et notamment par des acteurs particuliers che sont les grands investisseurs institutionnels. Questa creazione di valore è stata evidentemente spinta enormemente dalle istituzioni finanziarie e dalle attività speculative. Et cette valeur actionnariale, comme on le sait, a bouleversé l'organisation du travail et le marché du travail dans tous les grands pays développés. Questa speculazione ha completamente sovvertito, stravolto il mercato del lavoro in tutte le società sviluppate. Et donc sur ce plan-là aussi, la finance globale a une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. E pertanto la finanza di oggi ha un'enorme responsabilità a quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane nel mondo del lavoro. C'est la raison pour laquelle il y a également d'autres réformes qu'il faudrait mettre en œuvre au niveau des entreprises et du droit des sociétés. E ci sono altre riforme che andrebbero messe all'opera, per esempio a livello di rappresentanza all'interno delle società. Pour à la fois réformer la décision concernant, je dirais, le partage des revenus et des résultats, enfin le partage des résultats, et la nature de la décision d'investissement. E parlo soprattutto della divisione tra tutti i soggetti degli utili e anche la condivisione delle decisioni sulle azioni da compiere. Voilà, donc si vous voulez, on a affaire à deux grands maux, deux grands cancers, si je puis dire. D'un côté, le cancer qui est lié à la prolifération des produits dérivés dans le monde, qui sont des produits extrêmement dangereux finalement, même s'ils ont une apparence de couverture de risque. Et puis il y a le cancer de la valeur actionnariale, qui suppose aussi qu'on ait des réformes assez radicales au niveau du droit des sociétés. Dunque ci sono in qualche modo due grandi temi attorno a cui bisogna ragionare: la proliferazione dei prodotti speculativi e la redistribuzione del valore dell'azionariato. Voilà, et donc peut-être le travail qu'on a à faire en tant qu'universitaire, en tant que citoyen, peut-être aussi citoyen du monde, c'est de réfléchir peut-être autrement, surtout par rapport à l'information ou à l'éducation, on a à réfléchir, et je pense aux jeunes, à un autre rapport à l'argent et au travail. Dunque, pertanto, il lavoro che noi possiamo fare in quanto universitari, in quanto cittadini, è riflettere sul tema del denaro e sul tema del lavoro. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Grazie. Bene, ringraziamo moltissimo il professor François Morel per l'interessantissimo intervento. E noi, prima di passare la parola adesso al professor Amato, volevamo farvi vedere un pezzettino di un brevissimo video che abbiamo preparato per l'occasione, in cui il sottofondo è composto appunto da estratti, quelli che sono secondo noi gli estratti più significativi del libro del professor Morel. Gracias. però passiamo la parola al professor. Questa bella musica. Okay. Benaugurante, sì. Apocalittico. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Cercherò di rimanere nei 20 minuti che mi sono stati dati, questo vuol dire che diciamo tassativamente alle 4 smetto di parlare. Tu, per favore, stoppo io. Stoppi tu. Esatto. Un punto importante è stato toccato alla fine del discorso, molto interessante, professor Morin, e cioè il fatto che evidentemente pensare un'uscita da questa crisi implica anche la necessità di pensare nuovamente il rapporto fra lavoro e denaro. Il professor Morin è francese e conoscerà sicuramente quel bellissimo passo di Charles Péguy in un testo che si chiama L'argent, il denaro, in cui Péguy, siamo nel 1913 se non sbaglio, dice: non c'è nulla di disonorevole nel denaro, posto che il denaro sia la remunerazione del lavoro. Ora, credo che la crisi di fondo nella quale ci troviamo è la crisi di un denaro che si è posto proprio come remunerazione del non lavoro, cioè come remunerazione della, come diciamo, come rendita, come remunerazione del fatto di detenerlo il denaro, non di guadagnarsi. Questa è la premessa, ci sarei arrivato alla fine, ma visto che appunto mi è stato dato diciamo il lancio dalle ultime parole del professor Morin, ho voluto confermare. E devo dire, parlando del libro, perché io sono qua per dirvi che cosa penso del libro del professor Morin, vi dico che è un libro con cui sono estremamente d'accordo. Chi mi conosce sa che non sono particolarmente tenero accademicamente, quindi è difficile che sia d'accordo con qualcuno, ma in questo caso mi sento proprio di dirlo e di condividere anche quest'altro aspetto importante che il professor Morin continua a dire nel libro. Questo era aprire il dibattito scientifico e non ideologico su che cosa sia l'economia, su che cosa sia la moneta, su che cosa sia il lavoro e su che cosa siano i rapporti che legano lavoro e denaro. Perché forse è giunto il momento di imparare a discernere ideologia e scienza. Il discorso neoliberale, o neoliberista, si è presentato come un discorso, diciamo, totalmente e integralmente scientifico, e in realtà era una strana commistione di matematicismo, di meccanicismo e di proposizione di una dogmaticità pari solo alla, come dire, alla disinvoltura con cui veniva fatta passare per verità evidente. E poi si tratta appunto, vale la pena discernere ideologia e scienza per cominciare a legare scienza e politica. E qui forse ritroveremo anche un Keynes un pochettino meno edulcorato di quello che siamo abituati a conoscere. Cioè, Keynes parla a favore della costituzione di un'economia scientifica proprio perché la scienza da sola non consente di prendere delle decisioni economiche. L'economia non può basarsi esclusivamente sul caso. E c'è un elemento politico fondamentale nell'economia che si chiama appunto economia politica. Nasce così. L'operazione accademica è stata quella di togliere l'elemento, l'aggettivo all'economia e parlare di economics, di economia tout court. Ma l'economia ha una dimensione politica che attiene proprio al fatto di essere una scienza degli uomini che producono, che scambiano e che si parlano. Il libro, dicevo, sono d'accordo fin dalle prime pagine, è stato detto dal professore, ma a pagina 18 voi trovate questa bella domanda. La moneta non dovrebbe forse essere concepita come un bene comune per l'umanità? E allora io voglio insistere su questo punto e dirvi cosa intendo io per bene comune. Bisognerebbe riuscire a pensare una moneta che sia per tutti e di nessuno. Cioè che non fosse qualcosa di appropriabile privatamente, cioè che non fosse un bene economico. In fondo Keynes prova a dire questo in tutta la sua attività di scienziato. La moneta non è un bene economico, non è neanche un male, ma è qualcosa la cui giustificazione consiste nel rendere possibile lo scambio e la circolazione dei beni economici. Ma che, cito testualmente, una volta fatto il suo lavoro, deve sparire dalla somma delle ricchezze di una nazione. Questo lo dice nel 1923 e lo ripete fino a Bretton Woods, perché nel 1944 Bretton Woods propone il bancor, è una moneta che sparisce, una moneta che non si può accumulare, una moneta che non è nelle mani di nessuno ed è destinata a circolare. La moneta non è ricchezza per Keynes, non è un bene, non è una cosa, se volete. Ma questi sono esattamente i presupposti dei mercati finanziari. Se c'è un mercato finanziario vuol dire che c'è una merce che su questo mercato si tratta e si scambia, e questa merce è la moneta. Quindi l'elemento dogmatico fondamentale, la decisione dogmatica che viene presa per rendere possibili i mercati finanziari è la decisione di ricondurre la moneta nell'ambito delle merci. È l'unico modo di concepire la finanza? Io direi di no, e direi che in questo anche in questo sono d'accordo con il professor Mohan, che quando dice un mondo senza, quando propone un mondo senza Wall Street, non sta proponendo un mondo senza finanza, sta proponendo un mondo senza mercati finanziari, cioè un mondo in cui la finanza non passa attraverso operazioni di mercato, ma altre forme di relazione, diciamo così. E c'è un altro elemento che, diciamo, deriva necessariamente da questa assunzione, che appunto, mi sembra di poter condividere, credo di aver capito bene perché l'ho letto attentamente, quindi insomma credo che veramente su questo punto siamo d'accordo. Un'economia di mercato, il capitalismo non è necessariamente l'unica forma di economia di mercato che noi possiamo pensare. Rinunciare al capitalismo, cioè al capitalismo finanziario in particolare, non vuol dire necessariamente rinunciare agli elementi, diciamo, di efficienza e di chiarezza e di trasparenza e di concorrenza che sono legati all'economia. Io dico solo, perché ci sia un'economia di mercato, perché ci sia un mercato ci vuole una merce. Se facciamo un mercato di qualcosa che non è merce, è lì che sbagliamo. Ma proprio in nome dell'economia di mercato. Un mondo senza Wall Street. Altra citazione dal professor Mohan. A un certo punto cita Marcel Gachet, che è un grande intellettuale francese che ha, diciamo, anche una capacità di, insomma, di formazione dell'opinione pubblica, che dice un programma così rivoluzionario, una rivoluzione di questo tipo esigerebbe la redazione di un programma rivoluzionario. Ora là, ecco, su questo punto sono un pochettino più cauto, ma semplicemente per motivi economici, nel senso che non scomoderei rivoluzione. Io credo che basti in questo momento essere eversivi, nel senso letterale della parola eversione, cioè togliersi da un campo che non è più praticabile. Questo, in questo senso io credo che molte cose che dice il professor Mohan vadano in questa direzione, cioè in qualche modo non è che siamo di fronte a grandi scelte. Il mondo finanziario, il mondo dei mercati finanziari è destinato a implodere. Allora il problema è: ci implodiamo dentro o proviamo a uscirne prima che imploda? Qui vale veramente la vecchia metafora di Brecht: la casa brucia ma non esco perché piove. Io dico, la casa brucia, l'altra casa non è ancora costruita, accettiamo questa ipotesi, forse un po' dura, di dormire qualche notte all'addiaccio, ma intanto prepariamola questa casa. E come si fa? Appunto, non tanto redigendo dei programmi rivoluzionari o immaginando delle prese di potere, perché storicamente rivoluzione in Occidente vuol dire presa del potere, ma piuttosto immaginando un modo di pensare che del potere possa fare anche un pochettino a meno. Lo dirò alla fine, ma insomma poi su questo ritornerò. Ma fatta questa premessa, io andrei sui due punti che mi hanno veramente colpito nel libro del professore e che lui stesso ha ripreso poi quando ha dato delle indicazioni, diciamo, di politica e di riforma soprattutto. Due punti sono molto interrelati fra di loro: il tema della riforma monetaria e il tema della riforma, diciamo, della proprietà del capitale, quindi della riforma del diritto delle imprese. Il legame è abbastanza semplice dal mio punto di vista. Se la moneta è un bene pubblico, la sua proprietà non è privatizzabile e allora non c'è nessuno spazio in economia, nemmeno in un'economia di mercato, per la rendita, che è l'unico reddito in economia che non deriva dal lavoro ma dal possesso. La rendita non deriva dal fatto che qualcuno abbia fatto qualcosa, dal fatto che avendo fatto qualcosa si ritrova in mano un bene, tra virgolette, la moneta, che può decidere di non cedere più a nessuno, salvo che non lo si paghi adeguatamente. La rendita non è profitto, su questo tornerò. Ma appunto, riforma monetaria, anche qui vado veloce perché molte cose le ha dette il professore. È una questione di livelli e quindi di articolazione di livelli. Non possiamo immaginare una riforma che si faccia con un colpo di bacchetta magica, né immaginare che esista un solo piano della riforma. Non basta una riforma globale, non possiamo fare a meno di una riforma globale. Quindi ci sono diversi piani su cui bisogna provare a pensare la riforma. Però un principio c'è, e anche qui lo trovate chiaramente enunciato nel libro. Il principio è quello della pluralità monetaria. La moneta non deve essere unica. Non c'è nessuna necessità, né nessuna efficienza nel ridurre tutte le monete ad una. Ed è un po' quello che si è tentato di fare attraverso i mercati finanziari. Le monete possono essere diverse, posto che circolino in ambiti diversi, per fini diversi, e posto che evidentemente i loro rapporti siano ben articolati. Quindi c'è la necessità di una riforma della monetaria globale? Beh, direi proprio di sì, perché sono 40 anni ormai, 41 quasi, che di moneta internazionale non ce n'è più. Da quando l'oro non è più la moneta internazionale? Non c'è più moneta internazionale, c'è una moneta nazionale in posizione di moneta internazionale, il dollaro. E se ne aggiungessimo delle altre, o se in un cambio di egemonia al posto del dollaro fra 20 anni ci trovassimo il renminbi. Sarebbe sempre una moneta nazionale in funzione di un compito internazionale. Io direi semplicemente, una moneta internazionale, il minimo che deve essere è una moneta che non è la moneta nazionale di nessuno dei paesi che la usa. Di qui la necessità evidentemente di articolare monete nazionali e internazionali attraverso un sistema di cambi fissi e allo stesso tempo aggiustabili, come diceva giustamente il professore. Ma questo è proprio il progetto di Keynes e Bretton Woods. Bancor è una moneta di conto internazionale, non circola in nessun paese, perché è la moneta di una banca che ha luogo, se volete, da nessuna parte, in questo senso utopica, nel senso proprio che non ha un paese di appartenenza. È una moneta che si lega alle monete nazionali attraverso un sistema di cambi fissati di volta in volta e modificabili a determinate condizioni. Quali sono le condizioni? È una moneta, lo si capisce chiedendosi che cosa vuole Keynes che questa moneta faccia. Questa moneta deve servire a organizzare la compensazione delle posizioni creditrici e debitrici dei paesi che fanno commercio internazionale a livello mondiale, appunto, che fanno commercio internazionale. È una moneta che quindi non può essere accumulata, tanto è vero che Keynes prevede la fissazione di un tasso di interesse non solo sulle passività in banco, ma anche sulle attività in banco. Il che vuol dire che non si possono accumulare attivi di bilancia commerciale indefinitamente. Più accumuli, più decumuli. Sei penalizzato se accumuli. Che cosa sei indotto a fare? Beh, evidentemente a spendere. Il principio è molto semplice, è un principio di simmetria. Se l'unica posizione sensata in economia è l'equilibrio, allora essere in surplus o essere in deficit sono due forme di disequilibrio. Non c'è nessuna virtù nell'essere creditore. Essere creditore vuol dire aver trovato qualcuno disposto a comprare delle merci che altrimenti non sarebbero state vendute. Bisogna saper cooperare e mettere i debitori nella condizione di poter a loro volta rientrare dai loro debiti. E come si fa? Beh, spendendo. È una moneta cooperativa. Questo è un altro dei temi fondamentali che in tutto il libro ritrovate in ogni punto. Uscire dalla finanza individualistica di mercato vuol dire entrare in una finanza che è essenzialmente cooperativa, perché si basa sull'idea che debitori e creditori sono sulla stessa barca e quindi devono fare ciascuno la propria parte perché i debiti vengano pagati e l'equilibrio venga ritrovato. In un sistema che tende all'equilibrio dei bilanci commerciali, voi capite che non ci sarebbe neanche bisogno, qui vado un po' veloce, ma sono cose che abbiamo scritto con Luca Fantacci, che ritrovate anche in parte nel libro del professor Mohammed, che ritrovate in Keynes, non ci sarebbe più neanche bisogno di quella parte fondamentale della speculazione finanziaria che sono gli investimenti di portafoglio. La Grecia, alla Grecia è stato consentito di essere un paese deficitario dal punto di vista commerciale. Ma perché questa cosa non si è vista? Ma perché la si è finanziata a dei tassi incredibilmente bassi, mettendola quindi due volte nella condizione di non poter uscire dalla sua situazione. Uno, perché non poteva vendere niente, due, perché doveva pure pagare degli interessi che sono stati bassi, come per i subprime i primi anni, e poi improvvisamente si sono alzati. La questione degli investimenti diretti è un'altra cosa, ma la vedremo in relazione alla questione dello shareholder value. Un'altra cosa importante che mi sembra di poter dire e di esumere anche dal libro del professore è che questo principio di compensazione che è alla base di del progetto di Keynes a Bretton Woods, si può legare anche a due altri principi che enuncerei così: complementarietà da una parte e sussidiarietà dall'altra. Mi spiego. Complementarietà vuol dire che le monete possono essere multiple se riusciamo a organizzare bene i loro rapporti, i loro punti di contatto e le loro azioni, cioè se non le sovrapponiamo in un mercato in cui il loro tasso di cambio sia costantemente variabile sulla base di appunto, decisioni private. Quindi si può pensare a una complementarietà tra moneta internazionale e monete nazionali, questo è il pensiero di Keynes, ma si può pensare, e lo trovate ancora nel libro, a una articolazione complementare fra monete nazionali e monete locali, che si stanno facendo sempre di più, sia in Francia, forse anche in Italia, in Germania, in America, monete a circolazione locale, che non pretendono di sostituire interamente la moneta nazionale, ma che pretendono di complementarla, cioè di fare meglio ciò che la moneta nazionale non fa. Ma questo è il principio di sussidiarietà, che è stato integrato anche nella nostra Costituzione, ma che è uno degli elementi, diciamo, di maggior democrazia, se volete, nelle costruzioni istituzionali di questi ultimi anni. L'idea è: quello che si può fare a un livello inferiore non lo si faccia a un livello superiore. Se ho la possibilità di costruire una moneta che serve bene gli scambi locali, non ho bisogno di una moneta internazionale per quegli scambi. Mettiamo assieme queste cose e allora avrete già la possibilità di una, diciamo, di una articolazione di piani. Abbiamo bisogno di una moneta internazionale, questo è indubbio, ma per esempio anche di un bancor europeo, cioè di una moneta di conto che consenta agli stati europei di fare compensazione fra di loro e non di finanziarsi. E possiamo anche pensare a dei sistemi di monete locali che facciano compensazione, che consentano alle imprese di fare compensazione di debiti e crediti a livello locale senza dover necessariamente accedere a un mercato finanziario speculativo. L'ultimo punto che vorrei toccare sulla questione della riforma monetaria, e che mi consente poi di legarmi al resto, alla seconda parte del discorso, che andrà evidentemente più veloce, è il seguente. Bancor, bisogna insistere, qui lo do un po' apoditticamente, ma non è difficile mostrarlo, non ha bisogno di essere una merce, è semplicemente un'unità di conto. Questa è la principale funzione della moneta, consentire a debitori e creditori di sapere quanto si debbono reciprocamente, consentire di tenere una contabilità. Poi, evidentemente, la moneta ha anche bisogno di essere mezzo di scambio, circolare in modo tale da effettuare dei pagamenti. Ma nell'ambito della moneta, così come la pensa Keynes, la moneta non ha bisogno di essere riserva di valore. La moneta non ha bisogno, cioè, di essere la forma eminente di detenzione della ricchezza. Non ha bisogno di essere liquidità. Ma senza liquidità, senza una moneta che è capace di mantenere indefinitamente il suo valore nel tempo, voi non avete semplicemente i mercati finanziari. I mercati finanziari non sono semplicemente mercati della moneta, ma sono mercati di una moneta ridotta a rappresentante per antonomasia della ricchezza, cioè a una moneta ridotta a merce. Il fondo della riforma che propone il professor Morin, credo sia, io mi sento di esplicitarlo così, riusciamo a pensare a una moneta che non sia una merce? La risposta è sì, se pensiamo che i sistemi di compensazione funzionano, vengono sempre di più messi in atto, anche spontaneamente fra imprese, e non hanno bisogno di chiedere alla moneta di assolvere questo compito. In un sistema di compensazione i conti tendono ad andare in pareggio, e quando i conti sono in pareggio non c'è più moneta. La moneta sparisce. Ma appunto, è una moneta che non sparisce, che cosa fa? Beh, è una moneta che può esercitare una pressione ricattatoria su coloro che ne hanno bisogno. E da qui che nasce, io credo, l'ascesa e il potenziamento dell'ideologia dello shareholder value. Io ho del denaro, se lo vuoi me lo paghi caro, altrimenti non te lo do, e lo tengo in forma liquida su dei mercati finanziari che mi consentono di detenerlo così, senza nessuna perdita. L'azionista chi è? Beh, in teoria dovrebbe essere, stando al diritto, un socio, un cooperatore della società, un associato, qualcuno che dà del denaro ma non mette lavoro e che con la società rischia. Tanto è vero che il dividendo di un'azione lo si calcola a fine esercizio. Potrebbe anche non esserci. Alla fine di un esercizio si potrebbe chiedere ai soci, per favore mettete più capitale perché abbiamo in corso in perdite e bisogna rifinanziarsi. Quindi il denaro che io metto in un'azione, in linea di principio, è un denaro che sono disposto a perdere. Se sulla base dello shareholder value dico che il mio denaro messo in questa società dovrà fruttare almeno il 15%, sto trasformando l'azione in un'altra cosa e sto trasformando il mio reddito da un reddito da lavoro e da rischio, cioè da profitto a reddito. Io credo che questa sia una cosa molto importante. La cosa che sta emergendo sempre più chiaramente, ma anche nei fatti, nei discorsi, è che il peccato scientifico, se volete, e quindi anche, diciamo, il gioco ideologico più infido che è stato condotto in questi ultimi 30 anni, è stato quello di equiparare profitto e reddito. Si è parlato di un'economia di mercato in cui il profitto era legittimo, ma la rendita non è profitto. Il profitto è un reddito residuale che si guadagna rischiando. La rendita è un reddito che si incamera prima ancora che si sia prodotto qualcosa. Basta mischiare tutto. Questo può aver evidentemente fatto il gioco della, diciamo così, della diffusione dell'ortodossia finanziaria. È una distinzione che invece è importantissimo recuperare se si vuole uscire da questa ortodossia. Cioè, proprio se si vuole fare la riforma bisogna stare attenti a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Essere per l'economia di mercato e non per il capitalismo vuol dire riconoscere al profitto il suo diritto relativo di reddito da lavoro e non riconoscere la rendita. Questa mi sembra la prospettiva politica che si apre con il libro del professor Mosè, che a pagina 132 giustamente dice: è chiaro che le sfide che ci attendono sono notevoli, sfide ambientali, energetiche e alimentari senza dubbio, ma anche di ordine monetario e riguardanti i rapporti di proprietà delle imprese. Qui arriviamo, dal mio punto di vista, tocchiamo l'elemento fondamentale. Se riusciamo a vedere la pericolosità sociale della rendita, riusciamo a immaginare, a metterci in una condizione di immaginare una moneta che sia in rapporto con il lavoro e quindi una moneta che sia giustificata dal fatto che è il compenso per un lavoro svolto. Charles Peguy, di cui vi ho parlato all'inizio, diceva nel 1904: l'impresa autenticamente socialista è quell'impresa che crea una pressione sui suoi sottoposti inferiore a quella che riceve, cioè che assorbe pressione. E questa è la vera creazione di valore. Quando, diciamo così, alla fine dell'attività dell'impresa siamo tutti meglio, quando la trasformazione delle materie prime in prodotti si è fatta attraverso una riduzione della pressione. La rendita crea invece una pressione superiore per il semplice fatto che pretende di essere un reddito pagabile prima che ogni atto di produzione sia svolto. Io ti do i soldi e prima ancora di sapere come i tuoi investimenti andranno, tu mi dirai, mi dici quanto mi pagherai. Quindi è veramente un togliersi fuori da questo rischio sociale e da supportarsi cooperativamente, che è il rischio della produzione, il rischio dell'investimento, il rischio dell'incertezza del futuro, un'incertezza che nessun prodotto derivato toglierà mai. Concludo. Ho ancora 2 minuti rispetto al tempo che mi ero dato, quindi io direi che se dovessi proprio condensare in una parola, non una parola d'ordine perché non ce ne sono in questo libro, ma in una parola chiave, il libro, diciamo, il senso delle indicazioni che vengono date al professor Mohan, io direi che questa parola è cooperazione. Una parola frusta, non nascondiamoci, nel senso che dopo 20 anni di vicende più o meno tristi, diciamo, del mondo cooperativo italiano, parlarne adesso potrebbe come dire, sollevare giustamente delle obiezioni, perché le imprese cooperative si sono comportate come imprese capitalistiche, sempre di più. Ma cooperazione vuol dire semplicemente ridurre i principi di autorità in nome dei principi di competenza. Io direi semplicemente: la cooperazione è la democrazia in economia. Cioè l'idea è: io faccio tutto quello che so fare e solo quello che so fare, e metto questo mio saper fare a disposizione di un progetto collettivo, e ho diritto, diciamo così, a decidere questo progetto collettivo per il fatto che ho una competenza. Il secolo XX è stato nel pro e nel contro, nel bene e nel male, essenzialmente marcato dal marxismo, sia nel senso del progetto socialista, sia nel senso dell'anticomunismo, dell'antisocialismo che hanno caratterizzato e giustificato gran parte delle riforme e delle istituzioni capitalistiche. Io auspicherei che il XXI secolo sia proudhoniano. Proudhon, se lo leggete bene, nella sua critica della proprietà, dice essenzialmente il problema della proprietà è quando non è tanto il fatto che qualche cosa sia detenuto, ma che sulla base della detenzione di qualcosa si possa pretendere un reddito. La critica di Proudhon è una critica alla rendita, che lascia sostanzialmente intoccato, intatto, la possibilità del profitto e che va decisamente nella direzione di una cooperazione fra produttori. Perché questo è l'altro aspetto, ancora 20 secondi. La rendita non è il reddito di una classe di vampiri. La rendita è la tentazione che noi tutti, in cui tutti rischiamo di cadere, cioè è la tentazione di dire è tanto meglio avere dei soldi senza far fatica. Allora, i soldi si guadagnano, questo è il punto. E in questo senso la finanza di mercato ha fallito. Ha fallito prima ancora di fallire perché ha fatto passare l'idea che i soldi si facciano calcolando. Allora, il calcolo non è un lavoro in senso stretto. E lavorare non è solo calcolare, neanche per un ingegnere, e tantomeno per un economista. Mi fermo qui perché veramente ho detto parecchie cose, poi magari nel dibattito potremo riprenderle. Grazie. Grazie mille anche a Massimo Amato. Adesso vediamo l'ultima parte brevissima del video. Adesso lasciamo la parola al professor Gianduri per le sue riflessioni invece su lui. C'è una sintonia molto forte fra che pensa scrive il professor Morin, quello che pensa che ha scritto il professor Amato, che conosco da tempo, e quello che ho scritto io, quindi questo mi permette di fare un intervento, se volete, in successione logica. Non ho bisogno di riprendere cose dette su cui sono d'accordo. Anzi, vi voglio dire una cosa, che se il professor Amato lo conosco da un po' di anni, lui è proudhoniano, però gli voglio dire lo stesso. No? Io sono marxista, ma... E io non ti voglio bene. Lo vedete che siamo tra di noi? Ecco, ho una consuetudine di scambi di idee, cioè già dal mio libro precedente ci sono queste citazioni. Invece con il professor Morin è stato un incontro felice perché stavo iniziando a scrivere, avevo già scritto qualcosa del mio libro quando sono andato alla casa editrice Tropea, ho trovato questa cosa e ho chiesto una copia e ho trovato un incrocio felicissimo per cui troverete decine di citazioni sia il professor Morin sia di Massimo Amato sia di Luciano Gradino. E allora, questo mi permette di sviluppare un discorso più che di prenderlo, di puntualizzare. Benissimo, il filo del discorso è, signori, siamo arrivati alla crisi della moneta capitalistica. La moneta non è solo la moneta capitalistica. capitalistica, hanno una sua storia molto più lunga del capitalismo, anche se un certo abuso della storia porta a dire che il capitalismo risale all'antica Roma, che dopodiché è tutto uguale e non si capisce noi storici a che serviamo, visto che è sempre stato tutto uguale. E la moneta capitalistica è appunto quello che dice Massimo Amato, che in fondo è quello che sottintende tutto il suo lavoro, la sua moneta, e la sua funzione della riserva di valore che riassorbe tutte le altre, la funzione di unità di conto, la funzione di equivalente generale che ti permette di scambiare merci senza ricorrere al baratto. Tutto questo viene annullato nella... e l'idea è che la ricchezza è il denaro. Allora, rimettiamo una cosa sui piedi, questa ideologia: la ricchezza sono i beni, il denaro ne è il simbolo, si dice l'equivalente generale. Allora, quando tu scopri che nel mondo ci sono debiti e quindi crediti, perché ogni debito per definizione è un credito, e viceversa, cioè sarebbe debito se non c'è credito, no? E viceversa. Per oltre 100.000 miliardi di dollari è il prodotto nazionale lordo mondiale, il prodotto lordo mondiale è di 74.000 miliardi. Quando i mercati finanziari si scambiano ogni anno, sia pure compensandosi, 611.000 miliardi, ed è un dato arretrato, questo è il dato di luglio, perché a dicembre il foglio dava un'altra, parlava di 780.000 miliardi, perché è esponenziale questa cosa. Se il denaro è l'equivalente generale, mi sapete dire questa massa di denaro a cosa equivale? Qual è l'equivalente di questa massa di denaro? Stiamo parlando di cifre, di un valore, di una ricchezza che è tale nella misura in cui non verrà mai spesa. Perché se provassi a spendertela, ti accorgeresti che non c'è un equivalente. Non ha equivalente questa massa di denaro. Ecco perché iniziamo a... non solo, ma Marx ha insegnato come l'economia capitalistica segna il passaggio dallo scambio fra merce, denaro, merce, per cui io uso il denaro come mezzo per vendere una merce e comprarne altre, al ribaltamento denaro, merce, denaro, per cui la merce diventa il medium, il passaggio intermedio da denaro a denaro. Adesso siamo alla fase superiore per cui lo scambio è denaro, saltiamo la merce. Siamo alla produzione di denaro a mezzo di denaro, che se preferite con la battuta del film 9 settimane e mezzo, quando la protagonista chiede al protagonista Mickey Rourke che mestiere fai, si sente rispondere: faccio soldi con soldi. È questo. Ma questo può durare indefinitivamente? Siamo alla crisi del denaro, della moneta capitalistica. E guardate che questo non è che, vabbè, noi magari siamo dei talebani estremisti, e questo Tao non lo so, ci giudicheranno tali. Però guardate che se guardate fuori di questo angolo di provincia che è l'Italia e vedete per esempio le riviste americane, per esempio, o altre riviste anche autorevoli, vedete i numeri dedicati alla crisi del denaro, fuga dal denaro. E vuol dire che qualcosa c'è, e c'è, se anche gente molto lontana politicamente dagli orizzonti che ciascuno di noi in modo diverso può avere, comincia a dire certe cose, e vuol dire che il fenomeno è piuttosto avanzato. E allora voglio fare un passetto avanti e parlare a voi che siete una generazione, scusate quelli che non ne fanno parte, che sono un po' più avanti, a voi, attuali ventenni, siete una generazione che ha davanti un futuro molto difficile, tutto da costruire. Monti ha detto che il lavoro fisso è finito, che fondo non sono, no? Sa perché, però finanzieri e banchieri non si stancano. Restano attaccati come le cozze al loro lavoro fisso. Vabbè. E però, tutto sommato, ha detto una cosa vera: quella forma di lavoro dipendente ormai è finita, il lavoro dipendente con il lavoro garantito, fisso, eccetera, ormai è una cosa che non vi viene più riconosciuta. Fa parte di un patto fra capitale e lavoro di 70-80 anni fa che è stato stracciato. Bene, come ne usciamo? Rivendicando di nuovo il lavoro fisso, cioè il lavoro dipendente, garantito, temo che sia una battaglia per me. Voi avete un'altra scelta davanti, concretamente. O il precariato a vita, il lavoro dipendente come precario, non garantito. O l'autoimprenditorialità. O vi fate imprenditori voi stessi. La strada qual è? La strada è quella del lavoro associato, la strada è quella dell'autogestione, la strada è quella del lavoro in cui non ci sono certe garanzie, ma siete voi la vostra garanzia. Noi dobbiamo aprire la strada in questa direzione. E qui viene il discorso del denaro. Ciao, ma da cosa partite? Chi vi farà credito? Bene, è qui che dobbiamo cominciare a inventarci un po' di cose. Dobbiamo cominciare a inventarci, per esempio, la partecipazione, se volete, delle istituzioni pubbliche come socio di impresa, come socio che finanzia l'iniziativa e resta, e man mano si ritira, man mano che i lavoratori riescono a produrre profitto e a ripagare l'investimento, si ritira lasciando la quota azionaria che inizialmente ha avuto, anche in funzione di garanzia che il denaro dato non sia sprecato in modo bieco. Dobbiamo pensare ad altre cose come per esempio l'azionariato dei dipendenti. È inutile pensare di difendere Termini Imerese o qualsiasi posto di lavoro semplicemente andando a Frignacchione, no, non andare da dipendere, non andate dall'Italia, fai il suo qui. Accettiamo anche di ridurre il livello retributivo, normativo, eccetera, però non veniamo. No, è il momento in cui secondo me i sindacati devono iniziare una battaglia per ottenere che una parte del salario sia corrisposto in azionariato dell'azienda. E così come occorre battersi per la separazione fra le banche di raccolta e le banche d'affari, sono due cose diverse. Appunto, la finanza speculativa e il credito, occorre iniziare a battersi per la separazione fra la finanza e la produzione. Le aziende non possono, non devono essere proprietà di grandi centrali finanziarie che naturalmente sono totalmente insensibili, non gli frega soprattutto niente dell'andamento dell'azienda. Esattamente perché con la prassi della creazione di valore si guadagna di più facendo spezzatino di un'azienda, svendendosela un pezzo alla volta, che pensando a realizzare profitti attraverso i lavori. Ecco che cosa significa ormai la rendita che ha distrutto il profitto. Non è solo che l'abbiamo fusa, no, la rendita si è mangiata il profitto, siamo alla fine del profitto, che invece è una forma economica accettabilissima, cioè il fatto che da un'attività economica si ricavi. No? Detto da marxista poi. Beh, ma sai, Marx era uno scienziato sociale anche con forte senso della realtà. Certo. E allora, signori, quello che noi dobbiamo fare è questo. È inutile fare battaglie di retroguardia ed essere nostalgici di un welfare state, di un patto capitale, del grande patto socialdemocratico che ha avuto grandissimi meriti storici, ma che ormai non c'è più. Mettiamoci in pace, questo non c'è. E tu non puoi andare a dire a una grande impresa multinazionale che ormai è un cuore finanziario che indifferentemente compra i tergicristalli in un'azienda di San Paolo, una parte dei componenti del motore in un'azienda di Singapore, un altro le portiere e non so che altro in un'azienda di Melbourne o eccetera eccetera, poi assembla tutto a fine volo. Non puoi andargli a dire no, senti, devi produrre qui. Ti risponde: perché devo produrre qui? Scusa, i soldi sono miei, l'azienda è mia, faccio loro in Italia. e cominciamo a dire no, l'azienda non è tua. Cominciamo a batterci, non perché la Fiat non lasci l'Italia, ma perché per esempio ci sia la nazionalizzazione con esproprio, salvo indennizio, per ragioni di interesse sociale dell'azienda. È l'unico modo per difendere realmente il lavoro, per difendere realmente le condizioni, il potere dei cittadini nei confronti delle multinazionali. Diciamo le cose come stanno, è una questione anche di democrazia. Però perché tutto questo funzioni, dobbiamo utilizzare la minore quantità possibile di denaro, dobbiamo muovere meno denaro possibile. Perché vedete, il denaro ha un difetto, costa. Costa qualsiasi momento. Qui c'è un'idea che secondo me è interessante, anche se l'autore non è molto raccomandabile. L'autore è un tale signore che si chiama Schacht. Sapete chi era? Il ministro dell'economia del Terzo Reich, Hitler. Non è esattamente il biglietto da visita più raccomandabile, però aveva un'idea che non era mica male. Di acquistare, per esempio, materie prime sul mercato internazionale in cambio di buoni spendibili solo in merci tedesche prodotte dalle aziende tedesche. E la cosa sostanzialmente funzionò, perché in questi termini non la possiamo riprendere. Però, attenzione, perché qualcosa si può fare. E soprattutto possiamo pensare a una rete molto fitta di aziende autogestite, anche giovanili, che procedano con il meccanismo dello scambio in compensazione, non ricorrendo al denaro, ricorrendo a una sorta di a un'unica, se volete, banca simbolica, cioè che faccia da unità di conto, per cui siano registrate le rispettive partite in entrata e in uscita, e alla fine dell'anno ci sia un regolamento di quello della parte di denaro che può essere in qualche modo di disavanzo di qualcuno rispetto a qualche altro. Ma per il resto questo può e deve essere alimentato da un meccanismo di commercio in compensazione, che è la prima forma di fuga dal denaro capitalistico. E allora io credo che queste siano delle indicazioni anche utili, perché ripeto, la battaglia non è tanto... Io credo che la sinistra europea e i sindacati abbiano fatto un formidabile errore. Di fronte alla globalizzazione hanno resistito in termini di guerra di posizione. Era una guerra di movimento. Abbiamo tenuto la trincea quando gli altri avevano sfondato il fronte e c'erano arrivati alle spalle. La trincea non serve per niente. Dobbiamo abituarci a un'idea di guerra di movimento, non è guerra di posizione. E qui un'ultima riflessione, perché cerco di essere breve. In tutto questo che c'entra uno storico? Perché uno storico deve occupare, deve invadere il campo degli amici economisti? Perché vedete, io credo che uno dei problemi che noi abbiamo davanti, e l'esempio del lavoro associato ve lo dice, è che questa volta non abbiamo, beh, sempre le crisi economiche non sono mai solo crisi economico-finanziarie, hanno sempre cause ed effetti sociali e politici. Senza la grande crisi del 29 il nazismo forse ce lo saremmo risparmiato, non sono certissimo, ma insomma sicuramente una mano gliela data. Quindi sempre c'è stato questo, oggi tutto questo è ancora più vero del passato. Quando noi diciamo globale spesso intendiamo soltanto mondiale, un sinonimo di mondiale. Ma globale ha due significati. Globale al posto di mondiale non è il significato proprio della parola, è il significato figurato, perché il mondo ha una forma di globo e quindi dire globale significa dire mondiale. Ma globale nel suo significato originale significa totale, significa una cosa in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue dimensioni. Questa è la prima crisi globale della storia, non solo nel senso che è una crisi, ma perché è una crisi che investe contemporaneamente e molto velocemente la sfera sì economico-finanziaria, che è il cuore infartuato del sistema, ma anche la sfera politica della cifra nazionali, militare, sociale. Pensate agli effetti della globalizzazione, pensate a un piccolo, a uno spiccio di questa crisi. E la crisi ha messo in difficoltà la grande locomotiva cinese. Ormai si parla tranquillamente di fine dei ritmi di crescita cinesi dall'8 all'11%. Ormai l'obiettivo è il 7,5%. Questo che cosa significa? Che significa molte cose. In termini, cioè, economico-finanziari, è una cosa che può rilanciare la crisi. Pensate solo a una cosa. Questa flessione dell'incremento cinese probabilmente significa immediatamente una crisi delle sciami minerali australiane, che sono tra i massimi fornitori del sistema industriale cinese. Ma questo significa un'altra cosa, significa probabilmente la crisi del dollaro australiano, che è stata una delle grandi riserve di valore in questo periodo, perché insieme paradossalmente allo yen e al franco svizzero era una delle monete stabili. Quindi questo significa che la crisi che tu hai messo in moto sta ritornando addosso come un boomerang. Il tutto però è una situazione nella quale in Cina i problemi si pongono in termini molto più drammatici. Perché? Perché la Cina aveva bisogno di un 8% di crescita di PIL più o meno truccato e aggiustato, adesso sappiamo queste cose, e aveva bisogno di reinvestire immediatamente la metà dei suoi guadagni, perché ha bisogno di collocare al lavoro in qualche modo 15 milioni di cinesi che ogni anno si riversano dalle campagne nelle città. E se non lo sai, ti trovi rapidamente in una situazione di ingestibilità dell'ordine pubblico di una serie di città. Questo significa anche, per esempio, la probabilità di un crack immobiliare di cui estremi ci sarebbero già tutti adesso. Non sta succedendo solo perché dobbiamo fare il congresso del Partito Comunista Cinese, è un congresso già abbastanza annato, come dimostra la caduta di Bosilai, e vabbè, prima facciamo il congresso e poi l'anno prossimo vediamo cosa succede. Tutto questo significa anche uno scontro interno al partito, significa agitazioni sociali, cioè guardate che i piani si inseguono, la tempesta è una tempesta perfetta in cui la crisi economica crea agitazioni sociali, le agitazioni sociali riproducono le condizioni della crisi economica, il tutto crea attriti internazionali, il rischio di scaricarsi in tensioni internazionali di militare anche. Non vi dico l'esempio di quello che potrebbe succedere in caso di una guerra in Siria o in Iran e così via. Bene, io credo che uno storico serva esattamente a questo, serva come interprete, come riunione fra economisti, politologi, esperti di geopolitica, esperti di politica internazionale, eccetera, per cercare di metterci tutti insieme a riflettere su come uscire da una crisi globale che, così come ha avuto cause e andamenti di tipo politico, sociale, militare, economico, cioè non ha rimedi solo di tipo economico-finanziario. Questi poi, mi sembra di aver capito, che conoscono un solo rimedio buono per tutto: l'emissione di liquidità. Io, ecco, questo è un piccolo dissenso del professor Morelli, che dice ma non potranno emettere liquidità. No, questi lo faranno, emetteranno liquidità producendo altri disastri, perché il vero problema è che la liquidità, il vero punto è che quello che viene visto come la soluzione, la liquidità, non è la soluzione, è il problema. Il denaro, vedete, ultima cosa vorrei dire, io faccio sempre un esempio a lezione, ragazzi, dico guardate, il denaro non è una macchina, il denaro è un cavallo. Se voi non avete soldi e avete una macchina, che fate? La mettete in garage e non pagate la benzina, non pagate la manutenzione, le gomme, forse non pagate neanche l'assicurazione, questa là, ma se avete un cavallo che lo portiate a correre per il povero o no, non lo potete mettere in cantina e là e basta, perché continua a mangiare, bere, lo devi strigliare e devi fare la manutenzione, perché il cavallo vive. Il denaro non è una macchina che a un certo punto non serve più a chi li fa, no, il denaro vuole essere remunerato. Il denaro che riserva il valore pretende di essere remunerato. E quindi emettere denaro significa emettere qualcosa che richiederà altro denaro, che produrrà la richiesta di altro denaro. E alla fine voi vi trovate nella situazione di quell'ammalato di idropsia che ha ormai una serie di liquidi spazi interstiziali e però una sete inestinguibile, perché i liquidi non arrivano agli organi, stanno negli spazi interstiziali. Gli dai a bere, aumenti soltanto gli edemi. Prima o poi l'ammalato morirà per costrizione. Noi stiamo facendo esattamente la stessa operazione, stiamo aumentando la quantità di liquidità, di liquidi stiamo parlando, che aumenterà la sete. Questo è uguale. I liquidi che Obama ha omesso con l'ennesimo quantitative easing di qualche mese fa, e già si parla di un terzo quantitative easing prossimamente, sì, hanno ottenuto una cosa, la ripresina economica elettorale di questi mesi. Abbiamo fatto 4 posti di lavoro che sono un ottimo spot elettorale, diciamo, le cose come stanno. Però fra qualche mese dovrai metterne di nuovo altro, perché quel denaro non ha fatto altro che andare a pagare debiti, a pagare, a sostenere. Però è stato dato a creditori che lo riprestano ad altri ancora, ad altri interessi. E quindi questo continuerà a produrre tranquillamente, in un circolo vizioso permanente, questa dinamica. Ecco perché non c'è un'uscita da questa crisi senza toccare l'architettura di potere. La soluzione di emettere liquidità in continuazione non è una soluzione. Un limite c'è, probabilmente quel limite ha un nome e si chiama petrolio. Quando l'emissione di liquidità provocherà l'esplosione, vabbè che ormai c'è un Brent finanziario e un Brent materiale che sono due cose non perfettamente coincidenti, ma quando tutto questo ci provocherà l'esplosione, cioè ritorneremo al petrolio a 170-180 dollari al barile, vi saluto qualsiasi ripresa, questo ormai è detto anche dallo signore. Quindi prima o poi andremo a sbattere contro quest'albero. Per adesso questo sembra essere la soluzione, ma non è la soluzione, è il problema. Bene, grazie anche ad Aldo Giannulli. Ora, prima di lasciare spazio ai vostri interventi e alle vostre domande, che comunque vi prego di fare brevi perché non abbiamo tantissimo tempo, vi ricordo che al banchetto, all'ingresso, oltre al libro in uscita del professor Giannulli, Come uscire dalla crisi è possibile, c'è anche il libro del professor Moren, Un mondo senza Wall Street, oltre anche a un dossier che il laboratorio Lapsus ha preparato appunto per l'occasione. Per essere corretti, c'è il libro del professor Moreno, sì, e anche il libro del professor Vabbè, ora se ci sono domande, interventi da parte vostra. Magari venite qua così. Puoi venire a rifare la domanda perché non ha... La domanda è... Puoi ripetere la domanda? Se mi puoi aiutare un attimo nella domanda? Per tradurla. Come la dico? Grazie. Se la vuoi fare in francese, perfetto. Sì. Un microfono, però. Ah, va bene. Oui. La question concerne une catégorie particulière de produits dérivés. Je pense qu'il s'agit des CDS, des crédits default swap, à propos des dettes souveraines et notamment à propos de la dette grecque. Dunque la questione riguarda la creazione dei CDS a proposito della creazione del debito greco. Del debito. Alors peut-être d'abord un mot d'explication sur ces produits dérivés particuliers que sont les CDS. Un CDS c'est un contrat d'assurance contre le risque de faillite d'un émetteur de dette. Dunque, allora, il CDS è il contratto di assicurazione per evitare il fallimento di un emissore di debito. Per proteggersi dal fallimento. Per proteggersi dal fallimento. Oui, normalement celui qui achète une obligation, c'est-à-dire un titre de dette, peut parfois se protéger contre la faillite de celui qui a émis ce titre. Dunque chi lo acquista vuole assicurarsi contro il fallimento di chi ha emesso questo titolo. Alors, ces CDS sont des produits de couverture, des produits d'assurance, mais en même temps des produits très spéculatifs. In questo senso, evidentemente, i CDS sono dei prodotti estremamente speculativi. Parce que leur valeur est cotée et dépend du risque lié à l'émetteur de dette. Et appunto in qualche modo si legano anche alla riduzione del rischio legato a colui che ha messo il debito. Sono quotati in relazione. Alors évidemment c'est assez technique, mais je vais continuer ma réponse. Et parmi ces produits dérivés, parmi ces CDS, il y a une catégorie particulièrement dangereuse qui sont ce qu'on appelle les CDS nu. Dunque, all'interno c'è una categoria di CDS ancora più pericolosi che sono quelli che si chiamano i CDS nudi. Nudi. Oui. Et alors pour expliquer en quoi ces produits sont extrêmement dangereux, on prend souvent l'exemple suivant, celui d'une assurance que l'on prend par exemple sur l'incendie de la maison de son voisin. Vous comprenez? Dunque, per esempio, prenderò il caso dell'assicurazione che lo prende per tutelarsi sull'incendio di una casa senza vicini. Ma no, sono comparabili all'assicurazione che uno fa. Sì? Contro l'incendio della casa del suo vicino. Ah, scusate, contro l'incendio di una casa dei suoi vicini. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend que la maison brûle, évidemment, en tant que spéculateur. Et évidemment, in questo senso è speculativo, perché si riferisce al fatto che la casa bruci. Alors, ci si aspetta che la casa bruci. Ci si aspetta che la casa bruci. Alors, je reviens maintenant à la dette grecque, où il y a eu beaucoup de CDS émis, et notamment de CDS nus. E troviamo in questo senso al caso della Grecia dove sono stati messi molti CDS e nello specifico molti CDS nudi. C'est la raison pour laquelle probablement on a mis 2 ans avant de résoudre partiellement la question grecque parce qu'on a eu peur d'une contagion de la crise financière à l'ensemble de la planète à cause de ces CDS et notamment des CDS nus. Ed è per questo motivo che in qualche modo sono stati necessari 2 anni prima di risolvere la questione greca, perché si temeva un contagio globale proprio a causa di questi CDS e di questi CDS nudi. Car en effet, certains dirigeants politiques étaient parfaitement conscients que s'il y avait un événement de crédit ou une faillite de la Grèce, il y aurait eu ce qu'on appelle en termes techniques déclenchement des CDS, et donc les banques qui avaient émis ces CDS auraient été mis à contribution. Dunque, allora, in questo senso i dirigenti politici si sono resi conto che se ci fosse stato un fallimento della Grecia avremmo assistito a un declassamento, a un crollo, cioè, uno scatenamento, uno scatenamento di questi titoli con il crollo delle banche che li avevano emessi. C'est la raison pour laquelle on a préféré apporter des aides de l'Union européenne plutôt que de déclarer le pays en défaut de paiement. Ed è per questo che sono stati portati degli aiuti dalla Grecia piuttosto che dichiarare il paese fallito. Il y aurait eu un défaut de paiement sur la Grèce, on aurait eu une crise financière mondiale immédiate à cause de ces produits dérivés. Evidentemente con un fallimento della Grecia ci sarebbe stato un fallimento del sistema finanziario internazionale proprio a causa di questi derivati. Alors, donc le résultat, c'est qu'on a en effet effacé la moitié de la dette grecque, la dette privée grecque, sans que l'organisme professionnel qui gère le CDS déclare la faillite de la Grèce. C'est difficile à expliquer. Vous avez compris ? L'ISDA, c'était la question de l'ISDA. L'ISDA, c'est l'organisme professionnel qui gère les produits dérivés en général et les CDS en particulier. L'ISDA n'a pas déclaré le défaut de paiement sur la Grèce parce qu'on a estimé que l'effacement de la dette privée grecque était volontaire. Vuole tradurre? Chiedo scusa, ma sono... questo istituto ha deciso che non si trattava di default, che non si trattava di default nel caso della Grecia, perché il declassamento, quindi l'accettazione da parte dei privati di una riduzione della loro parte di credito sul debito greco era una riduzione volontaria, quindi non si era tecnicamente in una situazione di default. Fatto è un default concordato. Ma io non lo so, nel senso che per certi versi lo si può leggere anche come un primo tentativo di salvare. Di ricordarsi, no, direi questo, voglio dire, bisogna essere anche un po' ottimisti, gli uomini possono essere molto stupidi e diventare molto miopi, soprattutto quando la in cui sono stati educati li ha aiutati a guardare al breve termine, quindi a immaginarsi che non ci sia nulla di male nel guadagnare grandi somme di denaro senza rischiare. Però appunto ci si comincia a ricordare che quando un debitore è strutturalmente non in grado di pagare, i suoi creditori non sono più dei creditori, cioè ci si ritrova nella stessa parte, e quindi la ristrutturazione del debito, volenti o nolenti, è un ritorno di un principio cooperativo che si è fatto di tutto per tenere in danno. Ho detto, io presto ai greci senza chiedermi se sono davvero solvibili. Scopro che non sono solvibili e scopro che forse non posso pretendere troppo. E come diceva un personaggio estremamente sulfureo che ho incontrato all'inizio della mia carriera, questa la diceva giusta, è meglio il 30% di qualcosa che il 100% di nulla. E quindi la ristrutturazione è la regola con cui si esce dalle grandi crisi finanziarie. È la ristrutturazione, è la bancarotta dei 2/3 di Napoleone, è la grande inflazione finanziaria della banca Fondo, è la voglio dire, è l'iperinflazione tedesca per certi versi, se volete. Voglio dire, c'è un momento in cui La situazione è talmente grave che i creditori si ricordano di non essere i detentori di un diritto assoluto, ma di un diritto, se di diritto si tratta, relativo. Relativo a una relazione. Certo, che quindi hanno un'obbligazione nei confronti dei debitori. Che non è quella, se volete, il problema è che quando io accetto di essere pagato meno è come se dopo aver enunciato un principio assoluto venissi a patti con me stesso. Laddove invece il principio che si tratterebbe di rispettare non è tanto quello paga tutto oppure quando non riesci a pagare vedremo come fare, ma facciamo in modo che il sistema ti aiuti a pagare il tuo debito. Allora, il creditore non è una persona che, diciamo, può permettersi di stare in attesa del pagamento del debito salvo poi doversi ricredere. È un soggetto economico che è obbligato a tenere dei comportamenti economici che aiutino i debitori a rientrare dai loro debiti. E ancora una volta, insisto, il creditore è sostanzialmente qualcuno che deve spendere i suoi soldi. Questo è il principio della compensazione. Il fatto di avere un attivo non mi mette in una posizione di vantaggio né morale né economico. Alla lunga questo sarà anche il problema dei rapporti fra Stati Uniti e Cina. Nel senso, il grande creditore degli Stati Uniti è creditore finché non porta all'incasso. Massimo, alla lunga. Alla breve, comunque, diciamo, questo è il problema strutturale. Cioè, siccome ci sono dei debiti che non sono stati fatti per essere pagati, ci sono dei crediti che sono stati fatti per non essere saldati. Allora, in che senso io saluterei positivamente lo suono? È il primo passo verso potrebbe essere detto come un ricordo del fatto che i debiti devono essere fatti per essere pagati e i crediti devono essere concessi in modo tale da rendere i debiti pagabili. Non sto parlando di rapporti individuali, ma di rapporti di classi di debitori con classi di creditori. Ma magari c'è qualcun altro che vuole. Infatti, facciamo dopo. Sì. Via, io pongo una domanda da storico più da economista, perché riallacciandomi le ultime parole del professor Amato, se non sbaglio, se dovessi fare una domanda da economista di economia, io dovrei rientrare perlomeno prima dello sviluppo della cosiddetta cartolarizzazione, cioè dei derivati della speculazione finanziaria, perché lo spread e tutte queste belle invenzioni ideologiche non hanno nulla a che fare con i parametri di nessuna teoria economica, neanche del neoliberale. Si tratta di una volgare speculazione che pare nata da qualche genio matematico venuto dall'est, il quale ha matematizzato delle formule per poi svolgere delle speculazioni volgari, una specie di catena di Sant'Antonio, la cartolarizzazione, che non sono nient'altro che delle formule speculative sull'economia reale per praticamente sottrarre il valore economico sotto forma di cosiddetti derivati dell'economia reale che non hanno nessuna funzione nelle teorie delle economie classiche. Tutte queste parole per poter porre anche una problematica speculativa e critica. Il problema di come si connette tutta questa speculazione dei grandi stati che parte dalla Federal Reserve, e non si sa neanche quanta moneta sia stata emessa specularmente in maniera elettronica, cioè quanta moneta falsa è stata emessa dalla Federal Reserve dal 2007, e qui solo un appunto al professore. In realtà non siamo neanche usciti dalla crisi del 2007, perché le banche sono in bancarotta fraudolenta dal 2007. È stata soltanto emessa liquidità che poi genera quel circolo vizioso di cui parlava il professore, e che serve proprio questo. Serve soltanto per fare speculazione da parte delle grandi finanziarie, della famosa Goldman Sachs, eccetera, eccetera, ma certamente non può porre un risanamento dell'economia reale. Quindi io faccio una domanda da storico. In tutto questo vi è anche un consapevole attacco alla democrazia reale. L'articolo 18 sul lavoro sul contenzioso dei rapporti di lavoro è il tentativo dalla parte del grande capitale, cioè della trilaterale sostanzialmente, glielo riporto questo nome, la trilaterale, da parte di questi grandi gruppi politici e finanziari, che poi naturalmente prendono le loro marionette come banche, eccetera, eccetera, per poter porre anche una nuova ridefinizione dei rapporti sociali, che non sono più quelli del Novecento classico, ma del nuovo secolo della barbarie. Quindi, dietro questo, vi è effettivamente un attacco alla democrazia? Il MES è il meccanismo di stabilizzazione europeo, il meccanismo, si dice, il nuovo meccanismo, diciamo l'aggiunta del trattato di Maastricht, come lei giustamente ha denunciato, praticamente la rinuncia della sovranità nazionale di tutti i paesi, tranne che della Germania, perché l'euro sostanzialmente è tecnicamente una non moneta per l'Italia, che solo per la Germania. Detto questo, l'articolo 27 del MES pone per la prima volta, lo dico in francese, dopo la rivoluzione francese, ben iscritto la possibilità da parte dei primi ministri di non avere nessun ente, tra virgolette, filosofico, giuridico, a cui sottoporsi rispetto alla possibilità di agire rispetto economicamente su mandato. Io vi chiedo se questo non è una cosa di poco conto rispetto a quello che sta avvenendo. Vogliamo raccogliere un po' tutto? Sì. Ci sono altre. Fare una seconda domanda, poi vediamo altre cose, poi facciamo un pacchetto generale. Luca? Luca. Se riesce. Sì, ho ascoltato con molta attenzione le relazioni veramente competenti, approfondite, e mi sono fatte tante riflessioni per sviluppare, per capire, ci vorrebbero 10 anni. Prima che arriviamo a questo, chissà dove saremo andati a finire. Parla con la nostra economia, una grande transatlantica, che sta viaggiando in rotta di collisione senza saperlo, finché andrà a battere contro lo scoglio. I fortunati, poi quelli che a mano tratta tutta l'operazione hanno già pronto il disadattaggio dentro il quale si lanceranno, tutti gli altri annegheranno sostanzialmente. La mia domanda è molto semplice. In questa situazione così intricata e così drammatica, che consigli dareste voi, economisti, storici, professore, mi può rispondere chiunque, o anche tutti insieme, al disoccupato, al pensionato, tutto il pensionato frodato, allo studente precario, che istruzione dareste, diciamo così, per una parola d'ordine, un'idea sulla quale facile da comprendere, sulla quale mobilitarsi e coagulare e confrontare una certa posizione sociale questa crisi, perché mi sembra che le battaglie che stanno facendo sull'articolo 18 sulla chiusura sul trascorrere dei papi, come ha detto il professore, sono battaglie perse in partenza. Grazie. Faccio. Dopo questa sessione con il presidente, sì, volevo fare una domanda al professor Morel riguardo a una delle raccomandazioni che faceva in chiusura al suo intervento a proposito dell'opportunità di distinguere tipi di banche. Non ho capito bene dove collocherebbe la distinzione, e soprattutto in relazione appunto alla questione della speculazione e dell'attività sul fronte dei derivati, se anche lì è possibile distinguere derivati virtuosi da derivati non virtuosi, e se invece sono tutti soltanto pericolosi perché non vietati di tutto. Facciamo l'ultimo. Se potevo aggiungere una pezza alla domanda del non solo questa cosa, ma se i derivati, cioè il punto non è che tipo di derivato è, ma dove viene scambiato, cioè se il derivato viene scambiato sul mercato regolamentato con una camera di compensazione, un conto, perché non si fa proietta ancora farei l'ultima domanda, poi vabbè, le ultime due, se siete rapidi. Scusi. Vabbè. Sì, vabbè. Io volevo chiedere ai nostri ospiti, rispetto alle teorie che sono state citate, la scuola di Chicago e così via, è indubbio che ormai da 20 anni queste abbiano potuto costruire una vera e propria egemonia a livello culturale e di conseguenza politico nelle università e nel mondo occidentale. Oggi siamo andati in una direzione diametralmente opposta, esponendo un progetto che con il professor Loren è proprio profondamente diverso. Quanto è lontana, quanto è possibile intaccare questa egemonia culturale nelle università? Dove, lo dico perché mi sono lavorato con tesi di questo tipo, dove, come dire, l'impressione è che sia ancora molto forte l'egemonia di idee che oggi abbiamo cercato di contrastare. Facciamo partire prima. Sì, sì. Facciamo partire prima. Il y a eu plusieurs questions donc, qui sont posées. Le micro. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux micros. Ah. Ah. Ouais. Okay. Alors, je voudrais revenir sur 3 ou 4 points seulement. Dunque, vorrei ritornare soprattutto su 3 o 4 punti. D'abord sur la question qu'a posé Aldo sur le rôle de la liquidité dans le système financier. Dunque, innanzitutto sul ruolo della liquidità nel sistema finanziario di cui parlava Aldo. Ma réponse aux interrogations que l'on peut avoir aujourd'hui sur le rôle des injections de liquidités par notamment les banques centrales consiste à dire qu'il s'agit plus d'une fuite en avant que d'une véritable réponse. Donc, quand je parlais d'émission de denaro da parte delle banche centrali, intendevo che, cioè, la intendevo come piuttosto uno slancio in avanti piuttosto che una risposta, una soluzione. Un rilancio, sì. Oui, parce que finalement, ces injections, comme on dit, gonflent le bilan de la Banque centrale et sont à terme porteuses de risques également en matière d'inflation. Donc, anche per questo, evidentemente, gonfia il bilancio della banca centrale e crea dei problemi in termini di inflazione. Alors, évidemment, aujourd'hui, que font les banques? Les grandes banques qui reçoivent ces liquidités, eh bien, au lieu de les investir dans l'économie réelle, sous forme de crédit à l'économie, ces banques replacent cet argent à la banque centrale. Donc on a un circuit fermé où la banque centrale prête aux banques et les banques, finalement, replacent cet argent à la banque centrale. Dunque oggi cosa fanno le banche con la loro liquidità? Invece di offrire credito all'economia lo rimandano alla banca centrale che a sua volta lo emette nelle banche. Ce qui montre à l'évidence que nous sommes dans une situation de crise très grave, puisque les banques préfèrent garder ces liquidités pour elles-mêmes, en fonction des risques qu'elles peuvent encourir, plutôt que de prêter à l'économie réelle. Donc, nous nous trouvons évidemment dans une condition très grave, parce que les banques préfèrent conserver et tutelar le denaro per le proprie esigenze, per tutelarsi dai rischi, piuttosto che prestarli agli utilizzatori finali. Alors ensuite, je voudrais revenir sur... il y a eu plusieurs questions concernant les produits dérivés. Je crois qu'on peut dire que les produits dérivés les plus dangereux sont ceux qui concernent les couvertures de risques liées à la sphère financière elle-même, et non pas les produits dérivés qui sont destinés à couvrir des risques liés à des matières premières, par exemple, comme le pétrole, le blé, même s'il peut y avoir la spéculation, bien sûr, sur ces produits-là, mais... les produits dérivés qui sont liés au taux de change, au taux d'intérêt notamment, ou au risque de défaut d'un émetteur de dette, voilà les produits dérivés les plus dangereux. Dunque, quando mi si chiedeva se si può fare una differenza tra i titoli più o meno pericolosi, vorrei individuare quelli appunto più pericolosi, quelli che rimandano alla sfera finanziaria stessa, cioè che tengono il rischio all'interno della speculazione finanziaria, piuttosto che quelli che normalmente si legano al valore di alcuni beni precisi, come per esempio il petrolio. Voilà, alors ensuite il y avait une question sur le rôle du néolibéralisme dans la pensée intellectuelle et politique et son rôle aussi à l'université. Alors je vais essayer de dire deux, trois mots sur cette question maintenant. Donc, poi mi era stato chiesto il ruolo del néolibéralisme, del pensiero economico et spécifiquement del pensiero economico che viene comunicato nell'università. Sur le plan économique, cette pensée néolibérale, finalement, croit beaucoup aux vertus de l'équilibre sur les marchés et à la concurrence entre les acteurs économiques. Dunque, sul piano economico, questo pensiero crea un'apertura alla concorrenza tra gli attori politici. Et donc, il y a une sorte de bréviaire que l'on connaît maintenant bien et qui nous explique que évidemment, les marchés ne sont jamais en équilibre et que pour rétablir les équilibres, parce que les marchés sont imparfaits, il y a des asymétries d'information, et donc pour rétablir les équilibres, il faut créer de bonnes incitations. Donc, da questo ci deriva una sorta di idea che i mercati non siano mai in equilibrio e pertanto abbiano bisogno di attori che li regolino. Et les solutions, par exemple, du G20 s'inspirent directement de cette conception de l'économie, puisqu'on nous explique que pour rétablir le bon comportement des acteurs économiques, il faut diminuer les bonus, revoir les salaires des dirigeants et diminuer et rectifier le comportement des banques en augmentant leurs fonds propres. Ces mesures-là sont directement issues de cette pensée de l'équilibre. Dunque, questo è evidente anche negli incontri per esempio del G20, dove appunto si parla come soluzione di diminuire i bonus o di rettificare, rendere più corretto il comportamento delle banche. Dunque, questo tipo di soluzioni derivano direttamente da quel tipo di pensiero. Alors, pour terminer, je dirais simplement la chose suivante, c'est que il y a donc une croyance absolue dans cette pensée aux vertus du marché, à l'équilibre sur les marchés, aux vertus de la loi de l'offre et la demande. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de nier que le marché peut avoir une certaine efficacité, mais cette efficacité n'existe pas dans la sphère financière. Dunque, per terminare, sicuramente al mercato e a questa dimensione di equilibrio corrisponde un'efficacità, appunto un equilibrio tra la dimensione della domanda e dell'offerta, ma questo equilibrio non corrisponde affatto a quella che è la sfera finanziaria, non è interno alla sfera finanziaria. Et c'est donc une erreur d'avoir voulu libéraliser la sphère financière, parce qu'on sait très bien que, par exemple, lorsque le prix d'une action augmente, eh bien normalement, quand un prix augmente, la demande devrait s'abaisser. Or, c'est exactement le contraire qui se produit dans la sphère. Quand un cours de bourse augmente, tout le monde se précipite pour acheter l'action en question et les cours de bourse augmentent. Dunque, dovrebbe essere evidente per noi questa liberalizzazione della sfera finanziaria, perché secondo le regole del mercato, quando un'azione aumenta il proprio costo, tendenzialmente la domanda dovrebbe ridursi. Invece avviene esattamente il contrario: quando un'azione aumenta il proprio valore, tutti corrono a comprare. Et c'est comme ça que se forme l'instabilité dans la sphère financière et que se forment ce qu'on appelle des bulles qui aboutissent à des crises extrêmement graves. Et en questo modo si crée appunto quella che è la debolezza della sfera finanziaria e si apre la porta a quelle che sono le crisi molto grandi. Alors il y avait une dernière question sur, si j'ai bien compris, que faire pour les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui sont en difficulté. Évidemment, la réponse, elle est double. Elle est d'abord sur un plan microéconomique qui consiste à dire qu'il faut pouvoir développer, bien sûr, l'activité économique. Mais pour que l'activité économique puisse se développer, il faut des conditions, je dirais, macroéconomiques, mais qui ne sont pas simplement économiques. Il faut des conditions politiques, des conditions beaucoup plus générales qui, aujourd'hui, ne sont plus réunis pour permettre ce type de réponse souhaitable. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ça. Dunque, alors, mi era stato chiesto che tipo di consigli si possono dare a persone che in questo momento stanno perdendo il lavoro, persone pensionati, persone più in difficoltà. Dunque, risposte potremmo dire di microeconomia. Per risolvere servirebbe appunto uno sviluppo di quella che è l'attività economica. Per questo tipo di sviluppo è necessario, servono delle condizioni previe, quindi delle condizioni che derivano dalla macroeconomia, dalla dimensione politica. C'est pour ça que le mouvement des indignés, ce mouvement a une raison d'être, trouve sa justification et qu'on voit qu'aujourd'hui on est dans une impasse qui n'est pas simplement économique ou sociale. L'impasse est aussi idéologique, politique, et c'est la raison pour laquelle, dans plusieurs pays, on appelle à une sorte d'insurrection citoyenne pour changer le système dans lequel on est, et le changer assez radicalement. In questo senso, un movimento come quello degli indignati ha assolutamente ragione d'essere. Si è arrivati a un momento di vera e propria impasse ideologica in cui si assiste a movimenti appunto di vera e propria sommossa, rivolta dei cittadini che appunto rimettono al centro queste questioni. Allora, io purtroppo poi devo scappare, per cui cercherò di rispondere non necessariamente nell'ordine e partitamente alle questioni che sono state sollevate. E siccome era stata chiesta una parola, datemi una parola a cui attaccare, diciamo, la possibilità di, non dico di cambiare il mondo, ma insomma di anche semplicemente rimanere in piedi, lei diceva giustamente. Ma questa parola, io insisto, si chiama cooperazione, per quanto frusta, è la parola centrale. Esorto, non tanto ascoltare me, ma a leggere cosa riesce a dire Peggy a partire da di che cosa potrebbe essere il socialismo, diciamo così, se il socialismo fosse un socialismo fondato sulla cooperazione. Ve lo dico in breve. La cooperazione ha a che fare appunto con un principio di competenza e con l'idea di equilibrare le competenze in modo tale che non ci sia più bisogno di autorità. Il modello neoliberale, per quanto apparentemente libertario, ognuno faccia quello che vuole, questo era un po', anzi bisogna costruire la società perché ognuno possa fare quello che vuole, era in realtà un modello imposto, era un modello autoritario che aveva bisogno di forme di controllo enormi, Uno degli elementi su cui bisognerà riflettere è appunto la complicità degli stati nella costruzione dell'economia neoliberale. Le liberalizzazioni, le deregolamentazioni sono state fatte per colpi provenienti dagli stati, sono gli stati che hanno deregolamentato, non sono i mercati che si sono imposti. E se c'è un mercato che non esiste senza la presenza dello Stato, questo è proprio il mercato finanziario. Quindi cooperazione vuol dire riconoscere la dimensione pubblica senza dare alla dimensione pubblica una connotazione autoritaria. Quindi cooperare vuol dire innanzitutto auto-organizzarsi, autogestirsi. Faccio un esempio anche per venire proprio alla sua questione. Aumentano i casi di imprese considerate fallite perché finanziariamente non più redditizie, che quindi si chiudono, che vengono riprese più o meno di forza dai lavoratori che non ci stanno e che le fanno funzionare. Semplicemente perché una volta che l'impresa ha una gestione cooperativa, il problema della rendita non si pone più, il problema della creazione di valore per l'azionario, dell'azionista non si pone più, e trovate operai disposti a ridursi lo stipendio in vista di aumenti di stipendio. Io mi riduco lo stipendio per ridurre i costi, perché l'impresa possa, diciamo, nel medio periodo prosperare, e riprenderò quello che ho perso adesso dopo, ma nessuno perde il posto e ognuno fa quello che può. Quindi, mi scusi? Io sono d'accordo con lei sulle proposte che mi ha fatto. La moda è un po' che io l'ho raccontata da Paolo Barnardo. Ho capito, benissimo. A lei volevo arrivare dopo, perché francamente io trovo che bisognava indignarsi quando non c'era nulla che ci faceva indignare. Cioè, proprio l'idea che lo sviluppo debba essere qualcosa di dato e che ci si debba dare da fare perché sviluppo, perché crescita sia, già questo è un guasto economico. Lo sviluppo non è, e la crescita non è, non deve e non deve mai essere un imperativo. Il patto scellerato, concluso tanto a destra quanto a sinistra negli ultimi 30 anni, è stato quello di dire: cresciamo in qualunque maniera, di modo che ci sia surplus da distribuire e pacificazione da comprare a buon mercato. Io quello che stavo dicendo, adesso non sto facendo il romantico, non è anormale e non è inumano che delle persone che vivono e lavorano assieme accettino di ridursi lo stipendio. Io ho qui di fronte a me una persona con cui lavoro da 10 anni e abbiamo pagato per lavorare assieme, ci abbiamo messo del nostro. E chiunque abbia fatto qualcosa che gli piace sa che è disposto a fare questo. Dopodiché, per l'amor di Dio, teniamo tutti famiglia, ci sono dei limiti e ci sono anche dei doveri, diciamo, delle autorità pubbliche. Però non bisogna indignarsi quando le cose vanno male, bisognava indignarsi quando le cose andavano bene, quando il modello blairista, per esempio, diceva: facciamo fare rendita alla finanza per poi distribuirla. Tra parentesi, se c'è un campo in cui la cooperazione ha diritto di cittadinanza, leggo così la critica che il professor Mohan faceva al, diciamo, al mainstream e sull'efficienza dei mercati, no? Se c'è un luogo dove la cooperazione ha luogo di esistere, ha ragione di esistere, è proprio la finanza. Tutti, io voglio dire, sul fatto che quando c'è un mercato la legge della domanda e dell'offerta possa essere il modo più efficiente per determinare il prezzo e quindi l'accesso ai beni, non ho grosse difficoltà da me. Nel senso che se l'alternativa è che qualcuno mi dica quanto vale una cosa, tutto sommato preferisco parlare e contrattare. A me piace contrattare, tutto sommato. Quindi voglio dire, perché mi si deve togliere la parola? I mercati sono luoghi di parola. Domanda e offerta vuol dire che apro la bocca e dico un prezzo e quell'altro mi risponde. C'è anche un piacere della contrattazione, basta essere andati in Africa una volta per vedere quanto è meraviglioso contrattare un prezzo. Ci sono questa cosa qui, voglio dire, ma se... Perché ci sia contrattazione ci deve essere un mercato, perché ci sia un mercato ci deve essere una merce. Ora, la finanza non ha una merce in senso proprio, ha, diciamo, la finanza di mercato è ciò che resta quando una relazione umana di parola promessa, viene ridotta a una merce. Io dico semplicemente che la finanza è il luogo della cooperazione, essenzialmente fra debitore e creditore. Tutto ciò che va nella direzione di una distruzione di questo legame è pericoloso, alla lunga o alla breve. La cartolarizzazione è questo tentativo. Ma intendiamoci, la cartolarizzazione non ha fatto bene solo ai creditori che si sono liberati del rischio di credito, ha fatto bene anche ai debitori che non si sarebbero potuti indebitare a delle condizioni di vera valutazione del merito creditizio. Qui c'è gente che ha preso soldi che non meritava. Ok? Questo è una cosa da tenere presente. D'altronde vediamo qual è l'alternativa. O si coopera o si prende più decisamente la strada del confronto egemonico e, diciamo, del tentativo di approfittare della situazione di squilibrio per assestare dei colpi. Non vedo impossibile che dalla crisi sorgano nuove forme, nuovi agglomerati di potenza. Può essere che noi siamo tutti così occidentocentrici da non renderci conto che in definitiva l'esito più normale, vorrei dire, di questa crisi, se veramente non ci mettiamo a pensare, è semplicemente una subordinazione dell'Occidente alla Cina. Un passaggio di consegne, voglio dire, dopo un mondo senza Wall Street potrebbe essere un mondo con Shanghai. E poco cambierebbe, però, ancora una volta. Avremmo semplicemente un altro ciclo di potenza con probabilmente sofferenze ancora più grandi, tutto in scala aumentata. Si può giocare la carta dei rapporti di forza, oppure si può vedere in questo momento che nessun rapporto di forza è sufficientemente pagante. Luca Fantacci ha fatto l'edizione di alcuni testi di Keynes su Bretton Woods e ha pubblicato anche una presa di posizione del governatore della banca centrale cinese, che non so se faccia parte del partito vincente in questo momento, credo proprio di no, che però diceva sostanzialmente: è chiaro che la Cina in questo momento può giocarsi la carta dell'egemonia. C'è stata Londra, c'è stato New York, perché non noi, in fondo sarebbe anche il nostro turno. Dopodiché sì, anche il suo ragionamento era: ma non ci conviene, perché abbiamo visto come va a finire. Ogni ciclo della potenza finisce, e finisce male, vuol dire. Gli Stati Uniti sono finiti deindustrializzati, sono sull'orlo della deindustrializzazione. E allora, voglio dire, c'è davvero un vantaggio o è un vantaggio che si manifesta solo se non si guarda a lungo termine? Detto questo, le forze cieche della potenza andranno dove andranno, a colpi di calcoli. Quello che si può tentare di fare è di stabilire, almeno sul piano dei principi, la possibilità di un'alternativa. Ecco perché in campo universitario, secondo me, vale la pena vedere che ci sono, in campo accademico, diciamo, in campo scientifico, ci sono dei margini molto forti perché questa crisi offra nuovi spunti. Questa crisi è innanzitutto, lo dico sempre, la crisi di un modo di pensare. E allora, il primo atto di onestà intellettuale quando sei in una crisi di pensiero è di ammettere il fatto che non si sa più che dire. L'unica strategia è socratica, non so come dire. Sappiamo che non sappiamo. E che cosa non sappiamo in economia? Non sappiamo nulla della natura della moneta. Non abbiamo un sapere scientifico in economia sulla moneta. Non abbiamo fondazioni microeconomiche ragionevoli per le politiche macroeconomiche. Non abbiamo, o abbiamo delle ricette macroeconomiche che non tengono conto della libertà degli individui e che hanno quindi che tendono sempre a prendere le posizioni statalistiche. Io credo che in economia la questione cruciale da imparare a porre, prima ancora che rispondere, sia: la moneta è una merce o no? Ma si tratta di dare una risposta non ideologica, non passionale, non semplicemente intuitiva, ma, lo dico sinceramente, scientifica. Scientifica. Perché altrimenti l'unica cosa che ci resterà da fare, quando le nostre cartucce scientifiche saranno terminate, sarà quello di appellarsi all'ideologia e agli uomini della provvidenza. Io questo continuo a pensare che non sia il caso di auspicare. Bene, allora noi chiuderemo anche qui. Ringraziamo tutti voi per l'attenzione, i nostri ospiti e in particolare il professor François Morin per l'interessantissimo pomeriggio che abbiamo passato insieme. Per chiunque fosse interessato, questa sera il Laboratorio Lapsus organizza un'altra iniziativa insieme al professor Morin alla Casa della Cultura di Milano. E, Niente, al banchetto ci sono appunto i libri delle, le copie del libro del professore, libri del professor Giannulli e poi i dossier per chiunque poi voglia lasciare qualche donazione all'Apsus è sempre benvenuto. Grazie ancora a tutti. Questo è un plaisir réciproque, voilà, et un plaisir à vous écouter beaucoup. Question sur les questions.